Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Carissimi amici di Italian Podcast Network ed allgamesitalia.net, io sono Simone Pizzi, torno alla conduzione soltanto per un'occasione straordinaria. Questa è Archeologia Videoludica. Nono episodio della terza stagione di Pirati, Navi Stellari e Sogni Infranti. Grande titolo, merito, renderemo fra 5 secondi merito a chi lo ha inventato, che per la prima volta è riuscito a tirare fuori un titolo veramente decente. Ma diamo i riferimenti della nostra trasmissione: www.archeologiavideoludica.net è il nostro sito di riferimento. Archeologia Videoludica è la pagina che trovate sia su Facebook che su Google Plus, ovviamente Videoludica su Twitter. Trovate il professor Jones, che insomma ogni tanto si dà la macchia, però insomma è sempre lui gestito la nostra comunicazione con l'uccelletto. archeologiavideoludica@gmail.com è il nostro, la nostra posta elettronica. allgamesitalia.net ovviamente è il sito con il quale coproduciamo la nostra trasmissione, e ringraziamo invece come al solito il mitico Andrea Milana, che ci fornisce quasi sempre i remix che fanno parte ovviamente del nostro episodio, e lo trovate a www.vintagegameremix.com. Ma chi è con me compagno in questa nuova avventura di archeologia videoludica, di questo episodio con questo titolo così particolare che non si capisce assolutamente di che cosa parliamo, dato che siamo tornati in una condizione normale rispetto all'episodio straordinario di 3 ore della scorsa volta, insomma, che è un episodio che ha attirato l'attenzione per alcune cose, però non finiva mai. Sono io, ovviamente, e con me c'è il mio grande compagno di viaggio, che è Roberto Bertoni. Ciao a tutti ragazzi. Roberto, che è anche detto professor, no, com'è? Ah, no, dottor Brody, no, Marcus Brody. Questa sera siamo informissimi. Questa sera pesce. Esatto, questa sera siamo informissimi a Marcus Brody, che è stato colui che ha inventato sto titolo. Marco, che te, sì Marco, Roberto, che ti è successo? Dopo le critiche a un bellissimo piano editoriale che nel tempo è stato leggermente modificato, visto che a forza di mazzate almeno un titolo decente devo per forza trovarlo, sennò la mozione di sfiducia sarebbe stata definitiva, penso. Quindi, ma con noi c'è anche colui che di norma conduce questa trasmissione e si occupa anche della parte tecnica, e quindi noi ringrazieremo sempre ringraziamolo, è Alex Raccuglia. Ciao a tutti. Ciao Alex, sempre non sprezzare entusiasmo. L'entusiasmo che ti ha assunto proprio. Io sono molto entusiasta, sono sintetico, diverso. Sono molto entusiasma. Vabbè, no, hai ragione. In effetti lui è pragmatico, perché lui è milanese, non è come te che sei di Como, capito? Il lago, capito? Perdonami, Brianzolo, mettiamo il puntino su lì. Brianzolo non so neanche che significa. Guarda, Simone, cioè, io che so che cos'è un Brianzolo, c'ho la pelle d'oca. Presente come quando vai sulla lavagna e qualcuno prende il gesso, sì, e fai. Sì. Esatto, questo è l'effetto che fanno i Brianzoli. Perfetto. Alle persone normali. Cioè. C'è sempre una bella pubblicità, insomma, Roberto Bertoni. Va bene. Non me ne vogliono gli amici Brianzoli, però Bertoni è così. A fine episodio vi fornisco la via, non preoccupatevi. No, ma poi tranquilli, che cioè gli amici Brianzoli che ascoltano questo podcast non smettete di scaricarlo. Chiaramente quello che stavo detto è a titolo personale di Alex Raccuglia. Noi non abbiamo assolutamente niente contro i Brianzoli. E va bene, quindi chiacchiere veloci l'abbiamo fatta, state bene, tutto a posto, siete tornati dopo quel mese di pausa che vi ho dato grazie a questo fantastico episodio che abbiamo fatto sul Vigamus, le avventure, noi io c'ero, insomma, che poi è piaciuto questo state bene, insomma, rispondete, che cazzo. Sì, ci voglio un po' più, senti il flusso di parole, continui a interferire con la mia prosa, per forza sono costretto a interrompermi. E poi sai com'è, sono in ascolto del pargolo che vuole far sentire anche la sua voce, infatti probabilmente faremo Pannolini Cast, un nuovo podcast che volevo annunciare adesso. Alex suppongo che ha già gli assets pronti, giusto Alex? Sì, assolutamente. Ma tanto la puntata la monti tu, per cui. Ok, va bene. Allora, notizie da OGI. OGI. Visto che cerchiamo di essere molto sintetici, prendo proprio un unico spunto di un articolo uscito proprio oggi, che chiaramente quando ascolterete non sarà più oggi, ma sarà in una dimensione temporale parallela e diversa, dove la nostra amica Gwen Lan... Chi? Gwen Lan. E chi è? È una nuova ragazza che scrive per il nostro sito. Ah, e portala nel podcast, sei una ragazza, falla venire. È molto anche, in gamba, anche peraltro. Se è a metà strada tra una ragazza e un ragazzo, portala lo stesso. No, tra l'altro, poi se è in gamba o no, noi ci frega poco, insomma, siamo dei nerd, noi basta che una ragazza, già questo basta, avanza per notti e notti di fantasia, insomma. Bravissimo. Guarda, cerco di essere una persona seria, però basta che ce la fa annusa. Esatto, bravissimo. E il titolo dell'articolo che dovevo appunto collegarvi è la sua riflessione sul fatto di quanto sia triste il mondo dei videogiochi vista dal punto di vista dei maschi, visto che le femmine sono sempre viste come oggetto e quant'altro, e direi che a questo punto abbiamo proprio l'esempio palese della lupaggine che genera questo solo il pronunciare femmina. Ho capito. Che è un bello, po' come perché mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone perché, insomma, questo è il concetto. Insomma, siamo sempre a queste divisioni dell'universo maschio femmina, calcio, videogiochi e anzi, leva contro questa cosa. Ok. Quindi mi invito a leggerlo, che è sicuramente interessante. Okay. E poi al 100° lettore abbiamo anche una foto di Simone Pizzi in versione integrale, quindi se volete partecipare potrebbe essere comunque interessante. Ma è difficile che riesci a fare una foto in versione integrale di Simone Pizzi, eh? Ci vuole un po' tutto il portale, se proprio lo vogliamo chiamare portale, poi insomma. No, mondo, universo, chiamalo come vuoi. Stargate. Questa è la notizia da OGI. Per quanto riguarda invece tutto il resto delle notizie, io farei partire anche un altro jingle. Ok, voi non potete capire, ma se sentite ovviamente un tono ilare nella mia voce, perché tra il jingle, che è stato durato pochi secondi, per noi sono passati minuti nei quali abbiamo riso di stupidaggine. Ok, notizia. Beh, se sei una persona in gamba, questa roba la metti nei bloopy. Bluppi, certo, è chiaro. Oppure li taglio e poi dopo tu i bluppi te, insomma. Sai, io sono meno esperto di bluppo. E poi molti quelli. Allora, posso andare avanti? Certo. Ok. Tanto è una puntata breve questa, di quelle che durano poco. Diamo una notizia importantissima che ha fatto piacere a molti podcast ascoltatori, perché è nato un nuovo podcast, ma guarda un po'. A sfondo videoludico, ma guarda un po', condotto da me, pensa un po' che storia, e insieme a me e Roberto, quindi All Games Italia, ci stanno gli amici di AdventurePlanet.it, è nato il podcast delle avventure grafiche, si chiama Calavera Caffè, lo cercate su Twitter, lo cercate su Facebook, lo cercate su Facebook perché la pagina ha già raggiunto 250 like in pochissimo tempo. È stato un podcast che è stato accolto da un grandissimo entusiasmo, molto di nicchia, molto particolare, ben condotto e soprattutto ben realizzato, grazie agli amici appunto di AdventurePlanet.it. Se andate su AdventurePlanet.it, ovviamente da una parte troverete riferimenti a questo podcast per potervi abbonare, lo trovate su iTunes, lo trovate anche su, insomma, utilizzando qualsiasi altro feed reader. Ci è fatto molto piacere, insomma, aver riscosso molto successo. Ma veniamo a un altro podcast, sempre dei nostri, così poi andiamo avanti. Dietrologia videoludica, Alex, lo vuoi dire tu? Che sta per fare un ennesimo esperimento di diretta, visto i successi di quelli passati. Beh sì, il prossimo 21 maggio, speriamo che questo Archeologia Videoludica venga editato prima, in modo che queste divengano pubblicità e non un necrologio. Diciamo il 21 maggio, in occasione della presentazione della prossima Xbox da parte di Microsoft, seguiremo l'evento di presentazione in streaming in diretta e commenteremo live. Commenterete live, perché non so se ci sarò io. Tutto quanto. In HD. Non sai in se HD, cioè in HD. In HD. Non farmelo dire. Ma dico, cioè, non sai se ci sei in quanto presenza fisica o perché ti occupi della parte tecnica? Mi occupo della parte tecnica. Ok, vabbè, però, cioè, voglio dire, poi stai lì che fai, non commenti. Cioè, voglio dire, quando accenderanno l'Xbox e gli scriverai errore di sistema, cioè, qualcuno, cioè, la cosa verrà normale. Ma a questo punto, entriamo nel vivo della trasmissione di questo episodio che, come ho detto, si intitola Di Pirati, Navi Stellari e Sogni Infranti. Lo ripeto perché mi è piaciuto veramente tanto. Entriamo nel Barnett College. Eccomi qui a introdurre quindi questo Barnett College. Ho questo onore concessomi da Simone Pizzi, al quale non potrò mai baciare abbastanza mani, piedi e altre parti del corpo che è brutto commentare in questo podcast. Brividi proprio, brividi. Brividi, signore, brividi. E no, appunto, come avrete probabilmente intuito, questa puntata vuole parlare un po' di LucasArts, uscendo un po' da quella che è la nostra timeline storica, nel senso che siamo ancora fermi alla paleologia dei podcast, e quindi adesso è importante che in qualche modo però ci fermiamo un attimo e tributiamo un giusto, come si può dire, un giusto tributo, perdonatemi la ripetizione, a LucasArts, che come ben sapete ha avuto purtroppo modo di morire poco tempo fa. Non vuole essere però l'ennesimo amarcord, perché ne avete sentiti tanti, ne avete visti tanti, se ne parla ovunque, ma preferiamo che siano più i fatti a parlare, che sia un po' le sensazioni e i ricordi di quegli anni a uscire in questa carrellata, che appunto non vuole essere una disamina puntuale di tutto quello che è stato LucasArts, ma un veloce percorso per ricordare quello che è stato un compagno di viaggio a cui vogliamo molto bene. Detto questo, questi momenti di ilarità, perché adesso potete capire che in teoria in questo momento davanti a me dovrebbe esserci una scaletta che però piano piano sta automaticamente slittando verso il basso, e adesso sono arrivato praticamente ai titoli di coda e non riesco a capire quale elemento magico possa aver fatto tutto questo. Detto questo, l'ultima premessa che vorrei fare è che appunto questa è l'anticipazione di tutto quello che verrà. Quindi prendetelo come una sorta di indice per gli ascolti dei prossimi mesi, e lasciamo appunto questa frase bellissima di Simone Pizzi, che il sipario si alzi ed entri l'uomo d'oro. Perfetto, allora entriamo nel vivo, allora, a questo punto di questa discussione, di questa narrazione, di questo racconto, e parliamo dell'inizio, cioè di quello che poi in teoria è stato l'inizio di tutto, anche se poi c'è stata già una discussione, scaletta. Sì, adesso ne parliamo. Ci siamo presi a capocciate, no? Perché se parliamo di Lucas, quindi parliamo di quello che è stato un po' l'inizio del successo delle avventure grafiche di Lucas, che ovviamente hanno fatto scuola, chiaramente, dobbiamo partire da Maniac Mansion, anche se poi dopo magari ci arriviamo, abbiamo fatto un'osservazione fra noi dicendo che probabilmente la prima vera avventura grafica è stata Labyrinth, però giustamente Bertoni fa notare che non possiamo proprio definire Labyrinth un'avventura grafica in senso tradizionale, anche se era un prototipo probabilmente di quello che poi sarebbe diventato il sistema Scum e quindi il sistema Frasi delle avventure grafiche di Lucas. Sì, allora diciamo che appunto iniziare a Maniac Mansion presenta due problematiche, diciamo, storiche. Effettivamente non è stato il primo titolo Lucas, e probabilmente neanche la prima avventura grafica, né di Lucas nel senso generale. Però è un titolo molto importante, nel senso che comunque è il primo titolo autopubblicato da LucasArts, è la prima avventura grafica che ha avuto un certo riscontro in tutto il mondo, che ha avuto una certa fama, è il primo titolo che presenta lo Scum, è il primo titolo di Ron Gilbert. Quindi potete capire che tutti questi elementi definiscono Maniac Mansion come una vera e propria istituzione per quello che riguarda sia la storia del videogioco che la storia più delle avventure grafiche. Penso che tutti voi lo conosciate, penso che è un titolo che trasuda Lucas da tutti i pori in ogni minimo dettaglio, in ogni situazione. Vogliamo parlare ad esempio, giusto per prendere un elemento identificante, la motosega? Quel particolare elemento che non serve a niente per tutto il gioco, ecco, quello può essere magari preso come emblema e simbolo di quello che è lo spirito di Lucas, che già è ben presente in una casa che in quel momento e in quell'istante era una fucina di idee, una fucina di sogni. George Lucas non chiedeva niente di particolare ai propri sviluppatori, chiedeva semplicemente di portare a casa soldi. Poi magari su questo aspetto so che magari Alex ha qualche notizia da darci, se ricordo bene, di una biografia che ha letto di George Lucas, giusto? Yep, perfetto. E appunto non chiedeva di portare un prodotto finito, non chiedeva di dare un qualcosa di definito che generasse solamente una serie di cloni. Lasciava libero spazio ai propri programmatori, lasciava libero spazio alle persone che lavoravano per lui. L'importante è che portassero risultati. Ecco, diciamo che Maniac è stato veramente un grande risultato, ed è stato il primo tassello, il primo mattone di una scala che ha portato a successo una casa che rimarrà per sempre ai nostri sogni. Posso, sì, infatti, posso scusa. Ah, vai, Alex, scusa. sempre parlando delle origini della LucasArts, credo che questo si possa collegare, se posso introdurre un attimino il discorso di tutto l'impero che Lucas ha creato, una cosa molto breve. Dicevo che Lucas lascia, l'ho detto già in dietrologia videoludica, Lucas aveva creato questa sussidiaria della Lucasfilm, che inizialmente si chiama appunto Lucasfilm Games. Come dire, diciamo, sperimentiamo, portatemi a casa dei soldi, senza appunto avere tanta ingerenza, non è che si occupava direttamente delle cose. Non so, dal mio punto di vista, secondo me non l'ha mai neanche guardato, ma no, secondo me non gliene poteva fregare di meno, chiaramente. Una cosa che devo dire dell'impero che ha costruito Lucas, che poi ha venduto pochi mesi fa all'altro impero Disney, è il fatto che George Lucas, con la sua visione particolare, che ha creato il capolavoro di Guerre Stellari, il primo Star Wars, e poi i capitoli successivi, perché mentre il primo Star Wars fondamentalmente l'ha diretto, però è stata una produzione della 20th Century Fox, successivamente diciamo che lui ci ha messo del suo, tutto quello che ha guadagnato, tutto quello che ha investito, per far sì che i seguiti, cioè L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno Jedi, fossero effettivamente roba completamente sua, gestita da lui, e anche per quanto concerne il merchandising. Ricordiamo che il presidente di Fox è stato assolutamente, no, il CEO di Fox è stato calciato via, calcio nel culo, perché ha detto sì, teniti pure i diritti di merchandising, intanto sto film è già tanto che rientriamo dei costi. Quando poi il merchandising di Guerre Stellari è stato quello che ha fatto veramente la grana, più che il film. E dicevo, il fatto di aver creato questo piccolo impero, la Lucasfilm, che avesse generato questi due film, questi tre film capolavori, ma partiamo anche fondamentalmente dai primi due, ha fatto sì che tutte le persone coinvolte nell'ambito dell'impero Lucas, e tra tutti in primis l'Industrial Light and Magic, fossero sempre alla ricerca di superare anche l'eccellenza che hanno, di cui erano pieni rappresentanti dal punto di vista della produzione, ma soprattutto della post-produzione. Per cui io credo che l'aria che si respirasse in quegli ambienti, gli ambienti della Lucasfilm, e di conseguenza anche in Industrial Light and Magic, in LucasArts e poi in Skywalker Sound, che ricordiamolo che ancora oggi è uno dei, forse lo studio di registrazione di post-produzione audio cinematografica migliore al mondo, cioè tutta la gente che lavorava in questi posti tendenzialmente diceva: io sono qua sul tetto del mondo e mi devo mettere 10 coltelli nella pancia per dimostrare a me stesso di essere degno di essere su questo tetto del mondo. Fino all'avvento dei computer non c'era nessun altro che potesse fare effetti speciali come quelli della Industrial Light & Magic, e allo stesso modo tutte queste attività collaterali, questi satelliti, tra cui LucasArts e inizialmente Lucasfilm Game, erano posti di assoluta eccellenza. Credo che questo fosse più che il fatto che fosse un impero, cioè ci fosse Lucas a capo, che ci fosse praticamente questa area di assoluta meraviglia e assoluto, insomma, superamento degli ostacoli e dei limiti continuo. Sì, questo è abbastanza chiaro. E poi vabbè, torniamo a Roberto, però prima di tornare a Roberto, il fatto che comunque era chiaro che all'interno di LucasArts, Lucasfilm Games all'inizio, c'era questa libertà di pura sperimentazione, che ha portato poi dei pregi, perché comunque ha portato una sorta di evoluzione nel mondo del mercato del videogioco, anche tecnologicamente. E in effetti, venendo a quello che diceva Alex, paradossalmente probabilmente George Lucas, al di là della grande intuizione di Guerre Stellari, non sarà mai magari stato uno straordinario regista, ma Lucas di per sé ha portato tutta l'innovazione tecnologica del cinema, che ancora oggi della quale ancora oggi usufruiamo. Quindi, cioè, nel senso, tutto quello che era dentro quel laboratorio lì, o quella serie di laboratori lì, in realtà poi alla fine è stata proprio la spinta propulsiva tecnica e tecnologica che ha dato tantissimo al cinema e poi ovviamente di conseguenza ai videogiochi. Ma torniamo a Maniac Mansion, Roberto, che ti abbiamo trattato un po' come se tu fossi lo scaletto di turno. Scaletta, esatto. No, nel senso che appunto sono messo questi sono elementi importanti, come già detto in apertura e spero di non ripetermi più. Adesso non vogliamo trattare Maniac, scusate se uso questa abbreviazione, nello specifico, nel senso ci interessava appunto delinearlo come prima pietra di un percorso. Un altro elemento che vorrei appunto ricordare, che sempre per sottolineare il fatto, il famoso spirito che si respirava a Lucas, un altro elemento che troverete all'interno del gioco è la pianta Chuck. Non so se vi ricordate qualcosa. La pianta Chuck, no. Mi ricordo dal fatto della motosega, che poi ce la ritroviamo anche in altri giochi, insomma, soprattutto in uno. Ma la pianta Chuck in questo momento mi sfugge. Beh, purtroppo l'anni... Gli anni passano per tutti. Campano l'anni. Gli anni campano e... Innanzitutto vorrei chiedere a Alex se c'è ancora, perché non lo sento più nelle mie cuffie. Ci sono, ma non ho assolutamente idea di cosa stai parlando, per cui sono qua a prendere i due indici e fare tin tin tin. Ok, brevemente, in Maniac, nella biblioteca c'è una pianta che si chiama Chuck. Questo era il soprannome del presidente di allora di Lucas, che era Steve Arnold. E questa pianta poi, o meglio Chuck, è stato trovato ovunque in moltissimi giochi fatti da Lucas, perché era una sorta di scommessa che era stata fatta fra Gilbert e Steve Arnold stesso, che l'aveva sfidato a inserire il suo soprannome nei giochi. Sembra una cavolata, ripeto, come qua della motosega, però a me piace ricordare questi piccoli elementi, perché danno un insieme di una casa che veramente parlava al giocatore, ma in maniera diversa rispetto a quello che siamo abituati adesso. Cioè, non soltanto creativamente, dal punto di vista creativo, sicuramente loro facevano veramente, e questo lo dimostra, quello che cavolo gli pareva là dentro, insomma. Esatto. E si permettevano anche una sorta di, tra virgolette, insolenza che probabilmente altri non potevano, no? Questo è... senza meno la verità, insomma. Poi il grande Ron Gilbert, tra lui e tutti i suoi soci, se avete avuto l'opportunità di giocare le versioni Enhanced Edition, o come si chiamano, vabbè, insomma, le Special Edition dei due Monkey Island, insomma, ci sono la possibilità di ascoltare dei commenti, ne raccontano de belle, insomma, anche sul loro, probabilmente sul modo in cui si sono divertiti, no, a fare quello che facevano, giusto? Ecco, probabilmente proprio il fatto che questo divertimento emerge nei loro titoli ed emerge coinvolgendo il giocatore. Adesso però non vorrei fermarmi troppo su questo, poi lascio la parola ad Alex, che riesce a denotare, appunto, magari parlandoci un attimo di Scum, dal punto di vista tecnico, cosa è veramente stato di innovativo. Esatto, esatto. Quindi praticamente il primo titolo, diciamo, che abbiamo detto di spicco, che ha dato comunque una sorta di rottura, è stato Maniac Mansion, che è stato anche il primo gioco, se non sbaglio, di Ron Gilbert all'interno di Lucas, però potrei anche dire una sciocchezza, e nasce quindi di conseguenza lo Scum, o lo Scam, secondo di come vogliamo nominarlo, che è questa... Che cos'è, Ale? Dai, proviamo a descriverlo in maniera anche non troppo tecnica, insomma. Ma sì, in maniera molto carina. Allora, prima di tutto, SCAM è l'acronimo di Script Creation Utility for Maniac Mansion, ovvero sia lo strumento di creazione degli script per Maniac Mansion. Partiamo dal nome, perché questo nome? In realtà, fondamentalmente, SCAM è un chiaro riferimento a Guerre Stellari. Infatti, SCAM significa fondamentalmente melma o schifezze, e in Guerre Stellari c'è un momento in cui c'è uno dei trooper che dice: fermatevi feccia ribelle, stop your rebel SCAM, per cui hanno traslato, visto per questo grande amore che comunque Guerre Stellari, che volente o nolente è stato qualcosa che ha spinto molti a fare un certo tipo di vita, me a fare il regista, ma un sacco di gente per fare film o anche fare sviluppo di videogiochi, secondo me hanno deciso: chiamiamolo SCAM e troviamo un significato all'acronimo. Allora, è andata bene, sì, gran fortuna per questa cosa. SCAM è un linguaggio di scripting. Quando si fanno avventure, essenzialmente si deve trovare un sistema per coniugare la grafica degli ambienti, diciamo, e l'interazione che ha l'utente con questi ambienti. Fino a poco tempo prima delle cosiddette avventure grafiche, c'erano, correggimi se dico minchiate, Roberto, le avventure testuali grafiche, in cui fondamentalmente c'erano delle location, delle esecuzioni dei testi, però l'avventura essenzialmente era testuale. Esatto, quindi era l'aggiunta della grafica all'avventura testuale, in realtà. Esatto, il giocatore digitava un testo, che era fondamentalmente il comando che voleva dare al videogioco. Una parte molto importante del gioco era il parser, cioè quello che analizzava quello che aveva scritto il giocatore e capiva i comandi. Un conto è dire nord, vuol dire che vado a nord, un conto è dire voglio andare a nord. Alcuni di parser erano molto più ricchi, molto più capaci, alcuni erano molto semplici. Scam essenzialmente è una sorta di guscio che consente di bypassare il parser, senza, ovvero sia evitando di digitare il testo, perché il testo era fondamentalmente già scritto a video, erano presenti soltanto alcuni verbi, il numero e la quantità di verbi cambiava a seconda dell'avventura e con l'evoluzione del sistema di interfaccia, e questi verbi tendenzialmente consentivano, grazie all'utilizzo di un cursore che era pilotato col mouse sui computer più nuovi o col joystick sui computer più vecchi, di interagire con gli oggetti, nel senso se c'era il comando prendi, cioè nel senso prendi con te, e poi si selezionava prendi e poi si selezionava l'oggetto nello schermo, essenzialmente questo stava a indicare il comando che prima era testuale, nel senso prendi quell'oggetto, automaticamente questo veniva tradotto senza aver bisogno di un parser, perché non c'era più la fase di parserizzazione, cioè di capire cosa c'era scritto, essenzialmente c'era solo la fase di esecuzione, cioè eseguire quello che c'era scritto. Essenzialmente Scam era fondamentalmente questo guscio che consentiva di, nelle primissime versioni, di eseguire le azioni o eseguire le azioni con gli oggetti. Man mano che si va avanti, le versioni di Scam partono dalla 0, che era quella di Maniac Mansion per Commodore 64, poi già con la versione MS-DOS sono passate alla versione 1, che poi è stata utilizzata anche per Zack McCracken, fino alla fin fine alla versione 8, cioè la maledizione di Monkey Island, una grande evoluzione di questo motore, che inizialmente era soltanto fondamentalmente un parser, e poi man mano ingloba altre tecnologie, altri motori, tra cui il motore musicale iMuse, di cui parleremo più avanti. Certo. Scusa una cosa, giusto per dare una precisazione, penso che la maledizione si basi però sul Grimmen, che è quello che ha poi fatto un Grim Fandango, se ricordo male. Ma probabilmente hai ragione, tu hai detto una minchiata. Nel senso che, allora, sicuramente è un'evoluzione del motore che poi ha portato al definitivo utilizzo della tastiera con l'engine di Grim Fandango, però lo Scum in quanto tale mi sembra che si fermi al titolo prima. Mamma e Wikipedia dice che la versione 7 è Full Throttle e The Dig, la versione 8 è la maledizione di Monkey Island. Secondo me, anche se Monkey Island 3 è uscito dopo Grim Fandango, comunque per continuità con lo stile di gioco, forse hanno usato questo. No, può essere che ricordo male io. No, ma c'hai ragione sicuramente te, ripeto. O meglio, magari. Sì, no, può essere che. Bene, io concludo questa inutile, assolutamente insignificante, anche imbarazzante diatriba tra i due conduttori che non sanno. Non sono abbastanza sicuro che c'ha più ragione Alex. Ma anch'io penso abbia ragione, e il Grime è Fuga da Monkey Island. Quindi mi costruisco. Ma lo dico semplicemente anche per spirito partigiano, non è mica perché penso che tu abbia torto. No, ma fondamentalmente sono idiota. Esatto. Sono idiota, ma ti spiego anche il perché. Perché Grime è un motore in 3D. Esatto. La maledizione di Monkey Island, se ricordate bene, è in 2D, quindi. Io penso che il resto degli ascoltatori se ne vanno piano piano e sanno chi ascoltare e chi no. Dopo Space War, insomma, penso che lì hanno già capito tutto. Non è che, e continuano ad ascoltare perché ti vogliono bene. No, pure per sentire la prossima minchiata che voglio dire. Esatto. Va bene. Comunque, torniamo al nostro discorso. Che poi, tra l'altro, paradossalmente, qui ritorniamo a quello che dicevamo prima: il fatto di quanto i laboratori Lucas siano stati rappresentativi di una sorta di evoluzione. Come diceva Alex, le avventure erano avventure testuali, poi avventure testuali grafiche, quindi con l'aggiunta di grafica spesso statica. Poi vi ricordate, c'era quella via di mezzo che è stata poi la via che è stata scelta dalla Sierra, no? Che era quella di avere un'avventura grafica a tutti gli effetti, con l'omino che si muoveva come le avventure della Lucas, però invece di avere un sistema di comandi aveva comunque i comandi testuali, quindi era veramente un super ibrido quello. Lo Scum invece poi ha semplificato la vita non soltanto per il giocatore americano in sé per sé, ma penso che abbia semplificato la vita proprio per il giocatore anche a livello universale, perché chiaramente si potevano approcciare ai videogiochi giochi d'avventura grafica, in quel caso anche persone che non erano perfettamente super a conoscenza del linguaggio inglese, perché non dovevano più compilare frasi, ma in realtà c'era questa cosa delle frasi già preimpostate con gli oggetti, e quindi c'era un approccio tutto molto più visivo, no Roberto? Sì, mi sono perso in quello che stai dicendo, nel senso che hai fatto un percorso molto interessante, ma stavo leggendo le mie memorie. No, a parte gli scherzi, sicuramente è un percorso interessante, che qua magari mi aggancia un po' a quello che mi dicevi nelle note della scaletta, che era cominciato con questo labyrinth, che in qualche modo appunto aveva dei primordiali, un testale guidato, diciamo, quindi una sorta, esatto, di ibrido fra avventure grafiche come possiamo immaginarle con Monkey Island, con Maniac, e le avventure testuali di Infocom e quant'altro. Quindi già qui c'era un percorso ben definito. La fortuna di Lucas è riuscita a fare il passo successivo, quindi introdurre, mischiare in maniera propositiva tutti i vari elementi che erano presenti in altre case e dare un risultato finale che è veramente innovativo, questo sicuramente. Tanto è vero che ho letto in diverse fonti, e peraltro mi attacco un po' anche i ricordi del tempo, le recensioni di Maniac non riuscirono a accogliere, diciamo, perfettamente il valore del gioco ai tempi, diciamo un riconoscimento più postumo che contemporaneo. Adesso non so se ricordi gli anni in cui uscì, oppure ti ho perso anche. Scusatemi, no. Se no, perché intanto sento il vuoto proprio. No, vai tranquillo, tu parla, poi te lo diciamo noi se siamo morti. Okay. Bertoni, per la prima volta in decenni abbiamo un sistema di registrazione che abbastanza funziona. Silenzioso, esatto. Che sta funzionando e tu rompi i coglioni, va bene, ma tutto questo è fantastico. Però riprendiamo ovviamente il nostro cammino, riprendendolo faccio un'ulteriore piccolissima nota, ma poi andiamo avanti. Il fatto che comunque le avventure Lucas si riconoscevano anche per il peculiare stile, anche dal punto di vista grafico, che però era ovviamente un disegnare ovviamente digitalmente quello che erano gli sfondi, c'era l'utilizzo delle palette, era tutta una cosa abbastanza particolare, poi l'utilizzo della digitalizzazione, quindi sfondi disegnati a mano e poi successivamente dipinti. Ma la vera grande innovazione, quella che ha fatto fare ulteriormente un grande salto a quelle che sono state le avventure e i giochi, credo in generale, della Lucas, è stato il sistema iMuse, Alex, o iMuse. I Muse, sì. iMuse, ma in realtà sì, è stata una delle cose principali, anche se devo dire che all'interno della galassia di Scam forse era una parte marginale. Devo dire che hanno fatto un grandissimo lavoro di marketing per presentarlo, perché mi ricordo che quando venne presentato sulle pagine di TGM, che cos'era l'iMuse, era una cosa che non capivamo più niente. Allora, anche in questo caso partiamo dal acronimo. Anche se, scusa, faccio un piccolo accenno, c'è una scena, ce ne sono tante, ma c'è una scena in particolare su Monkey Island 2 che lo si sente e lo si vive tutto le news, eh? Cioè, nel senso, comunque sì. Non è che era una cosa così solo pompata tanto per, insomma. Vabbè, lo so, iMuse è l'acronimo di Interactive Music Streaming Engine. Ancora una volta probabilmente hanno trovato prima il nome, poi dopo ci hanno appiccicato qualcosa. Allora, l'idea di iMuse era quella di creare delle colonne sonore che interagissero con gli avvenimenti che si verificavano all'interno delle avventure. Tendenzialmente, quando si fa un'avventura grafica, ab origine c'era una colonna sonora per ogni ambiente. Il fatto che ci si potesse spostare in questi ambienti un po' più grandi, tipo le isole avevano diverse schermate, eccetera, eccetera, e che si potessero fare delle cose, che potessero succedere delle cose, ha generato la necessità di avere una colonna sonora che potesse essere un minimo interattiva. Le prime versioni di iMuse erano dunque basate su tracce MIDI. Io mi ricordo, essenzialmente c'erano strumenti che si potevano accendere o spegnere o far entrare o far uscire, in modo che il tappeto sonoro potesse venire fatto evolvere in maniera molto dolce grazie agli impulsi, cioè ai trigger che si verificavano durante il gioco. Io mi ricordo una cosa meravigliosa che si verificava su Amiga, quando ci aveva bisogno di cambiare un disco e nella stessa location, per cui ti diceva inserisci l'altro disco e rimaneva attaccata la nota finché non inserivi il disco, caricava la sezione, a questo punto la musica poteva continuare. Man mano che le versioni di Scam e di iMuse sono migliorate, anche queste caratteristiche sono andate migliorando, anche perché essenzialmente i giochi alla fine si dovevano per forza installare, perché non erano più su 10-12 dischi come su Amiga, ma si erano spostati sempre più su PC, e per cui la presenza fissa di un hard disk ha consentito di avere più ricchezza dalla parte più ricchezza nella palette sonora, nella palette degli strumenti, e maggior velocità di accesso ai dati. Sì, anche se ritorno alla scena che dicevo io, perché poi dopo sicuramente il sistema è migliorato, però io mi ricordo la prima scena che me l'ha fatto vivere in una certa maniera, e probabilmente non ne ricordo altre, nel senso che poi dopo il sistema, è come dice Alex, è sicuramente evoluto, e nella sua evoluzione è diventato quasi normalità, no? Per certi versi, perché ti faceva vivere in maniera interattiva appunto l'ambiente, la situazione, o la cupezza o la brillantezza della situazione, che è quella di quando Guybrush Threepwood imbarca, naviga sulla palude e sta andando verso il luogo dove si trova la voodoo, la tipa lì, insomma, che la musica diventa sempre più cupa piano piano. E quello tu lo sentivi in maniera estremamente palpabile. Poi chiaramente con i suoni MIDI la cosa era ancora più evidente rispetto a magari quando poi dopo sono subentrati le schede audio con i suoni sintetizzati bene, cioè nel senso comunque con una palette di suoni, insomma, fatti come si deve. Però ecco, questo è stato sicuramente un'altra ennesima grande evoluzione di quello che è stato il videogioco dal punto di vista della tecnica. Non so poi dopo quanto questo possa essere stato utilizzato da altre software house, fatto sta che era un brevetto vero e proprio, insomma, di Lucas. Roberto, se non mi sbaglio, giusto? Sì, sì. Fra l'altro la cosa, se vogliamo, singolare, è che anch'io il primo ricordo di questo sistema ce l'ho nello stesso preciso momento tuo, nel senso, questa palude con la maga voodoo che ti aspetta e questa musica diventa sempre più forte, e è particolare tutto questo, nel senso, sicuramente sono tutti elementi che ci riportano a pensare che Lucas in qualche modo ha trovato anche il nostro immaginario come giocatore, nel senso, non solamente per quello che è il valore, diciamo, oggettivo di un titolo, ma anche per quello che è il suo valore, passatemi il termine, emotivo, di cosa ha comprato questo gioco. Probabilmente anche per l'età in cui abbiamo avuto modo di giocare a questi titoli, o probabilmente per la magia che tutti questi elementi seppero comunque riunire tutti insieme. Sì, anche se poi magari, ecco, mentre che adesso mi ripercorro con la memoria, forse i momenti più alti di quello che erano le potenzialità degli Muse è nella parte introduttiva di Fate of Atlantis, del gioco di Indiana Jones, perché c'è tutta la parte introduttiva dove Indiana Jones sta cercando qualcosa nella parte, insomma, dei ripostigli del museo, e quindi gli cascano le cose addosso, roba del genere. Lì c'è tutta una serie di interazioni con la musica, perché comunque sono delle variazioni vere e proprie in quel caso, che dimostrano quanto poi potesse essere effettiva l'efficacia di questo sistema, che però, insomma, voglio dire, io comunque mi è rimasta quella scena che mi è rimasta più impressa è quella di cui abbiamo parlato. Ma LucasArts nel suo grande cammino, nella sua grande innovazione e nel suo grande tentativo di sperimentare, non è stato soltanto avventure grafiche, non è stato soltanto Monkey Island, ma a un certo punto, anche se non era sua intenzione farlo, perlomeno nei primi anni, entra, insomma, l'aspetto più spaziale, perché entra il marchio di Guerre Stellari all'interno dei videogiochi prodotti da LucasArts, e in particolare uno che è stato un gioco che in qualche maniera, sebbene oggi a posteriori lo possiamo vedere come una sorta di laser game di quelli a sfondo filmato, in realtà, insomma, è stato un gioco che ha attirato moltissimo l'attenzione nella neonascente era multimediale, che è Star Wars Rebel Assault. Sì, mi aggancio poi a questo discorso Star Wars per collegarmi sempre al discorso di Muse, perché magari proprio anche in titoli spaziali, non so se vi ricordate che questo engine probabilmente dal meglio di sé, nel senso, nelle musiche dinamiche durante le missioni, quindi un altro elemento che anche a me sta riafferrando un po', ripercorrendo con la memoria quello che è successo. Comunque siamo appunto su Star Wars Rebel Assault e siamo nel 1993, sono passati 6 anni. Rebel Assault. Assault. Okay. Assolte. Rebel Assorta. E siamo nel 1993, ovvero 6 anni dopo il Maniac Mansion. 6 anni in cui, esatto, Lucasfilm, più che magari... Ha prodotto di tutto. Probabilmente non che non volesse utilizzare la licenza, ma più che altro penso forse un discorso che non potesse usare la licenza. E su questo mi rilascio ancora a quanto ascoltato da Buon Alex su un altro podcast. Poi dimmi se sbaglio, ma vado sui ricordi dei tuoi interventi passati. Credo che tu ricordi meglio di me quello che ho detto. Perfetto. È il modo per dire che lui non l'ha detto, ma se tu te lo ricordi non ti... No, l'ho detto. Ah, okay. L'ho detto. Però è un modo gentile per dirmi che probabilmente la verità non è... La verità è là fuori. La verità probabilmente la sa soltanto Lucas e probabilmente nemmeno lui, perché... No, sicuramente gli no. Frega. Soprattutto oggi, voglio dire. Sì, sì. Diciamo che appunto lasciamo perdere... Magari considerazioni finali su quello che è stato in questi mesi le teniamo per la fine. Perché è importante questo gioco? Per due aspetti fondamentali. Da una parte appunto il discorso che è il primo gioco, o meglio il secondo che utilizza licenze Star Wars, ma il primo che lo fa in maniera potente. Infatti il primo titolo Lucas dedicato a Star Wars era Super Star Wars, un gioco uscito per Super Nintendo, sinceramente di dubbia qualità. Personalmente non mi è piaciuto molto, non che ci abbia giocato, dico la verità. Ho recuperato qualche filmato su YouTube e personalmente appunto ho avuto numerosi brividi lungo la schiena. E Star Wars Rebel Assault è importante per due cose, appunto innanzitutto l'impatto cinematografico che in qualche modo trasuda tutto il gioco, tant'è vero che molte scene sono pre-renderizzate, si cerca di catturare l'atmosfera del film, e dall'altro è stata una delle killer application per quanto riguarda il CD-ROM, ovvero che essendo uno dei primi giochi che di un certo peso, un certo livello che utilizzavano questo supporto per la distribuzione, chiaramente funzionò un po' come... cavallo di Troia per entrare nelle case dei giocatori, nel senso un elemento che non era giustificato probabilmente dalla qualità dei giochi fino a quel momento, in questo momento diventa necessario e quindi spinge anche gli acquirenti a comprarlo. Ecco, vorrei ricordare questo gioco soprattutto per questo, perché poi a livello proprio speech di contenuti o di quant'altro non è che fosse un gioco indimenticabile, questo sì. Non so se avete avuto modo di giocarlo, io ho giocato anche al... Beh, ma ti dirò, ci sei, posso? Sì, sì, vai. Ti dirò, credo che fu quando lo vedimmo per la prima volta tutti avevamo la mascella che appunto assolutamente sì, stava di fianco ai piedi. Ma che merdata è questo gioco? no e poi a posteriori no quello del Super Nintendo, veramente c'ha ragione Bertoni, veramente è una sorta di pseudo platform con Luke Skywalker che spara ad ogni cosa che si muove, veramente brutto. Ok, vai. Dicevo, credo che però sia uno di quei giochi che è invecchiato peggio, probabilmente. Cioè, nel senso, allora ci siamo stati tutti, e devo dire, credo che anche voi due, cioè, colpiti dalle potenzialità e da come queste delle potenzialità del CD-ROM e da come queste venissero sfruttate. Non ultimo anche il fatto che i filmati in full motion video erano comunque qualitativamente molto elevati per gli standard dell'epoca. È quello il discorso, cioè nel senso che noi possiamo parlare del gioco, cioè del gameplay, di quanto possa essere più o meno invecchiato il gioco, no? Però cioè nel senso quello è stato un gioco dell'inizio dell'era multimediale, cioè parecchia gente si è comprata probabilmente il CD-ROM e schede audio un po' più avanzate proprio anche grazie a quel gioco, me compreso, e mentre che i videogiochi utilizzavano full motion video all'epoca, e l'abbiamo detto pure su Dietrologia Videoludica quando abbiamo fatto lo speciale ovviamente di Lucas, che sembra che lo stiamo replicando, in realtà poi sono due puntate completamente diverse con due approcci completamente diversi, però all'epoca comunque il full motion video era relegato a un quarto di schermo, se voi ricordate bene, quindi c'erano molte avventure, molti film interattivi, roba già, dove quando c'erano le scene filmate c'era questo quadratino al centro dello schermo che si apriva e su questo quarto di schermo chiaramente si svolgeva la parte del full motion video. Invece Rebel Assault, come abbiamo detto appunto nella puntata di Trilogia Videoludica, ha utilizzato delle tecniche particolari, l'utilizzo di un sistema di compressione probabilmente proprietario, il fatto che sullo schermo faceva muovere magari le parti che erano indispensabili muovere e non si muoveva tutto il resto, cioè comunque fatto sta che tu su, anche se non a 30 o 25 fotogrammi al secondo, ma avevi comunque tutto lo schermo che si muoveva e c'era un feedback, tra l'altro, con la sensazione di Star Wars, con i laser quando sparavi, quando pilotavi la navetta, c'avevi il feedback del film, che era una cosa straordinaria. Quindi questo bisogna riconoscerlo tecnicamente a questo gioco, no? Vorrei aggiungere un'altra cosa. Tutti questi giochi di Star Wars fino a TIE Fighter, probabilmente, ma anzi no, anche l'altro, quello in 3D che praticamente era un motore 3D dimensionale tipo quello di Doom, come si chiama, Roberto? Rebel Assault Forces. No, Jedi Academy lì. No, Dark Forces, credo, sì, che fosse. Dark Forces. Okay. Sì. Ma insomma, tutti questi tre giochi che alla fine anche appunto Rebel Assault, che erano dei gioconi comunque per l'epoca, vennero fuori prima dell'avvento della seconda trilogia. In pratica era il periodo in cui Lucas stava preparando l'edizione speciale della vecchia trilogia, quella con gli effetti speciali aggiunti, per cui c'è stato tutto un periodo di tempo in cui il franchise di Guerre Stellari, che comunque ha sempre avuto grande successo eccetera eccetera eccetera, su vari media veniva ripompato di colpo. E per cui tutti quelli che noi che avevamo 10 anni, 5 anni alla fine anni 70, inizio anni 80, abbiamo vissuto questi filmoni, che comunque sono stati film che hanno cambiato il modo di fare cinema e di poterli finalmente giocare, è stato un grande boost. Cioè, nel senso, qui, oltre al fatto che fossero giochi comunque molto belli, erano i giochi di Guerre Stellari. Sì, no, ma assolutamente. E questo ha preparato. L'essere in prima persona, cioè avere la visuale in prima persona dentro un'astronave imperiale, cioè. Allora, quello che è veramente difficile non è tanto il fatto di far capire quant'era bello il gioco allora, ma è veramente il feedback, la sensazione che tu ci avevi giocandoli con gli effetti sonori, e mentre che giocavi dice: ma c'è stata la spada laser, capito? Oppure devo sparare solo col blaster, capito? E che tu giravi dentro l'astronave imperiale, c'erano pure quei gazzilli che camminano, avete visto mai quei robottini? Sì, sì, sì. E tu gli potevi sparare anche a quelli, no? Era fantastico. Ricordo che, dato che appunto erano giochi basati sulla vecchia trilogia, cioè l'episodio 4, 5, 6. I più belli, poi. I più belli, va bene. Mantenevano. No, devi dire che sono i più belli. Sono i più belli, okay. Sono più belli. Dopo la minaccia fantasma, sicuramente. Porco. Vabbè, diciamo, mantenevano un grandissimo rispetto con questi film. Cioè, i toni, i colori, le atmosfere. I vestiti erano tutti veramente molto molto molto in linea, cioè nel senso c'era veramente un'applicazione, c'era l'applicazione certosina di quello che si vedeva nei film. Cioè immagino che tutti gli artisti si fossero guardati al suo tempo, ovviamente non c'erano i DVD, le VHS, fermando fotogramma per imparare assieme a memoria queste texture da poi ribaltare in questo gioco, in questi giochi. Mentre dopo, anche perché poi i primi tre film si svolgono su tre pianeti e mezzo, cioè nel senso non c'è tutta questa varietà di razze, varietà di cose, erano comunque film che costosissimi per l'epoca, ma oggi sarebbero dei film veramente dozzinali per quanto a budget. Cioè Twilight è costato molto di più del Ritorno dello Jedi, per farvi capire, il primo Twilight. E per cui c'è, nel senso, c'era questa grande aderenza. Ed è però era un po' come vedere non soltanto gli ambienti del film, ma quello che c'era la stanza dopo. Per cui c'era grande coerenza, cioè tu ti immaginavi che la stanza dopo nella Morte Nera era così, ma non l'hai mai vista, e finalmente la potevi vedere e non stravolgeva, cioè nel senso non andava contro quello che hai visto prima, fino a un momento prima. C'era una grande armonia in tutto questo, e devo dire che questi giochi qui, mantenendo tutto questo rigore nei confronti del diktat della prima trilogia, consentivano veramente a tutti di giocare Guerre Stellari, ma veramente giocare Guerre Stellari. Anche perché poi era un periodo in cui alla Lucas si aveva preso la scimmia del motore di Doom, e che quindi lo riutilizzava, e mentre che l'ha utilizzato in maniera fantasmagorica appunto con Guerre Stellari, se voi vi ricordate, l'ha utilizzato in una maniera obbrobriosa con Outlaws, che ci siamo dimenticati l'altra volta, però siccome che ce l'ho avuto io quel gioco, grande gioco, grande gioco, mamma mia, una bruttezza unica, cioè, perché sarà stato è un gioco western di grandissimo spessore, cioè vuoi mettere, mamma mamma mia, cioè veramente quanta monnezza ho giocato nella mia vita, insomma. Come avrebbe senti, detto il buon com'era Boris, come si chiama lui, che mi sfugge sempre, vabbè. Una cosa proprio preciserei: il motore non era quello di Doom, era un motore proprietario, l'avevano scritto loro. Simil Doom, passiamola così, dai. Sì, sì, vabbè. Sì, comunque. Sì, era un simil Doom. Quando parleremo di Doom, poi ci sarà veramente un orgasmo per quanto concerne la parte tecnica. Cioè, credo che Carmack sia una delle persone più geniali del nostro millennio. Più del millennio. Guarda, scorso, è prevista la puntata nel 2016, però nel senso, magari accorciamo un po'. Ma non lo so, non lo so, perché ribadisco, potrebbero esserci ulteriori colpi di Stato qua. No? Vabbè. Bertoni, sei fuori da questo momento. Sei stato nominato. Potremmo fare col televoto. Ma no, ma è che in realtà, come il dottor Uci insegna, il tempo non è lineare, insomma, quindi non è detto che... Vabbè, comunque, detto questo, abbiamo fatto questo excursus su Rebel Assault, quindi abbiamo introdotto anche i giochi di Guerre Stellari. Vogliamo citare qualche d'un altro dei giochi di Guerre Stellari, perché insomma, poi dei giochi di Guerre Stellari ce ne sono stati tanti belli, ma ce ne sono stati pure tanti brutti, anche se Lucas ci ha regalato secondo me una grande perla. Non so se poi dopo ne parliamo, dopo la voglio citare uguale in questo momento, che è stato X-Wing. Quello è sicuramente il prossimo gioco che ho recitato, visto che sicuramente sull'onda di Wing Commander e quel genere, esatto, di giochi è stato veramente probabilmente l'apoteosi. Sì, ma Wing Commander era, cioè nel senso, X-Wing era di più per tante ragioni, chiaramente. E diciamo, allora, questo non vorrei entrare in questa disamina, in questa lotta intestina che potrebbe crearsi. Diciamo che sicuramente a livello di potere mediatico e di immaginario sono due piani completamente diversi. Come gioco, io sono rimasto affezionato al primo amore, che è Wing Commander, però... No, aspetta, però fermate, cioè, mentre che Wing Commander era comunque già un simulatore di volo spaziale in 3D, Wing Commander... cioè utilizzava la tecnica dei Doom nello spazio, nel senso che era tutto in 2D, cioè, e quindi era tutto bitmap, che c'erano ovviamente le navicelle, c'erano 5 posizioni e facevano vedere gli sprite in una certa posizione a seconda di come tu stavi rispetto a loro, insomma, vabbè. Comunque era un gran gioco anche Wing Commander, quindi non Wing Commander tecnicamente comunque non era niente male, no, ma poi ti ho detto anche di queste cose, insomma, poi la origine merita un capitolo importante sicuramente del videogioco, quindi insomma, vabbè. E comunque diciamo appunto diversi titoli di Star Wars, non citiamo le prime, chiaramente le prime versioni date in licenza da altre case. Scusa, ci terrei a precisare, Wing Commander è del 90 e girava anche su Amiga. X-Wing era del 93, cioè 3 anni dopo. Ricordate che 3 anni allora erano veramente sì, tanta roba, tanti, ed è uscito solo su MS-DOS, poi su anche PC, su Mac, ma tipo 40 anni dopo, tipo no, vabbè, ma c'è... E su iPhone 5 adesso mi hanno detto. Sì. No, scherzavo. Su. Anche se comunque anche lì il feedback Star Wars c'è stava tutto, insomma. Beh, ricordiamo i giochi da bar, quelli vecchi, che poi sicuramente Lucas ha dato in licenza a qualcun altro. Allora, ricordate quello vettoriale? Non c'entra niente, faccio sto piccolo Vampire Strikes Back. Bello. No, però prima c'è stato proprio Star Wars, dove tu pilotavi l'X-Wing e facevi saltare la morte nera. Bravo. Che tra l'altro c'era... Che erano quattro stage, cioè non è che erano tanti, cioè chissà quanta roba, no? Solo che poi ovviamente si ripeteva a cielo continuo, ma quanto ci avrò giocato a quel gioco. Cioè. Anch'io, anche perché poi c'era la sintesi vocale, per cui a un certo punto se tu guidavi c'era la voce di Obi-Wan che diceva Use the Force. Sì, fantastico. Un orgasmo infernale. Qui stiamo facendo le pippe comunque noi. È triste tutto questo. Ma è bello che questo, è tutto molto bello. Vai. Sì, no, diciamo che appunto poi i titoli di Star Wars... Scusa, ti interrompo, chiedo bene, scusami se ti interrompo, però potresti tirar fuori il nuovo podcast Onanismo Videoludico. Ma se vuoi tu presenta il progetto, esatto. E IPN già l'ha provato. Oppure fai un'ospitata in Pannolinicast. Che va bene, anche quello sì. È vero che è veramente importante, allora, tu sì. Scherzi, ma migliaia di mamme ci ascolteranno. No, dicevo che appunto se inizialmente la licenza di Star Wars era diciamo centellinata, nel senso che usciva un titolo ma in mezzo anche ad altri titoli, a un certo punto è diventato praticamente l'unico punto di sfogo per Lucas. In questo periodo però abbiamo diversi titoli interessanti, abbiamo X-Wing, abbiamo TIE Fighter, TIE Fighter, che vabbè, la versione di X-Wing, sì. Cioè, lo stesso motore di X-Wing, solo che dall'altra parte. I Dark Forces, che è già citato poc'anzi dal nostro amico. Poi abbiamo Jedi Knight, chiaramente poi torneremo Hai detto Jedi, questo è Mocaccia. Jedi Knight. Perché Knight, scusa, ne vogliamo parlare. Ma cioè, veramente un uomo come te, che sei il fulcro di questa trasmissione, ma perché non c'è Marco Gualdi? No, salutiamo. Io lo sto facendo, allora, fondamentalmente sono in una situazione di imbarazzo, però mi cospargerò il capo di cenere di lava. Sì, non sei nella tua migliore forma, lo diciamo pubblicamente in modo che insomma la figura sia proprio completa. Vai. Io voglio bene lo stesso. E certo. Ok, quindi abbiamo Star Wars Jedi. Jedi, con questo Jedi ti piace? Madonna, questo me lo caccia a fucilate. Sta peggiorando la sua situazione. Qual è il primo gioco della Cinematronics? Della Cinematronics, perché? No, vabbè, non la manco tutte, capisci da solo. Dai, vabbè, andiamo. Comunque, questo Jedi Knight, lo sto facendo perché era in testo. E certo. Maestro Jedi, dai, su, siamo più uomini. Ok. Ti preferisci questa qua, questa versione? O Jedi Knight. Jedi Knight, Dark Forces. Comunque c'è. Vorrei ricordare un altro titolo molto importante che è Yoda Stories. Mai sentito questa cosa? Questo è vero, Yoda Stories. Qual quello era? Che apparentemente continua a generare avventure casuali. Ti c'era anche di Indiana Jones, simile. Era gioco da ufficio in pratica. Era nato con quelle intenzioni, stiamo parlando del 97. Comunque appunto. Ah, ma erano tipo quei desktop game che faceva Lucas. Sì, ho capito. Mai giocato, ovviamente. Esatto, e sicuramente molto belli. E poi, nel senso, non vorrei sconfinare troppo, nel senso che poi andiamo a toccare magari argomenti che trattiamo più avanti. Tralasciamo però tutti quei titoli che personalmente ritengo abbastanza propriosi, tratti dalla seconda trilogia, o meglio, dall'episodio 1, 2, 3. Quindi Phantom Menace, eccetera, eccetera, che veramente. Sì, vabbè, anche quelli più recenti, che insomma la maggior parte sono veramente delle cacate in mondo. Sì, tranne magari gli strategici, che invece sono sicuramente interessanti. Ma poi ci arriviamo. Comunque, nel frattempo, ovviamente, tirata fuori una licenza, Lucas dice: oh, qui insomma arrivano i piccioli, che famo? Allora a quel punto ne tiriamo fuori un'altra. E arriva ovviamente sugli schermi di tutti i videogiocatori del mondo con grande gioia, insomma, tra l'altro la maggior parte dei titoli dedicati a questa licenza sono stati anche straordinari, anche se qualche cagatina c'è stata anche qui. Stiamo parlando ovviamente di Indiana Jones, che il nostro editore dice quello vero, che non si sa che significa, c'è un Indiana Jones quello falso. Quindi Roberto adesso ci parlerà chiaramente di Indiana Jones The Fate of Atlantis, anche se io non dimenticherei chiaramente The Last Crusade. Poi vabbè, si parla anche di sceneggiature di film mai usciti. Questo è un mistero cosmico, no? Appunto, Lucas ha avuto la fortuna di poter giocare la propria vita come software house su diverse licenze veramente importanti. Monkey Island lo tratteremo a parte in un'altra puntata sicuramente, delle avventure grafiche abbiamo parlato, Star Wars neanche a pronunciarlo. Ecco, Indiana Jones è sicuramente una di quelle licenze che più sono rimaste, diciamo, nell'immaginario collettivo, maggiormente forse sul lato cinematografico, ma tutti i videogiocatori ricordano con certo amore appunto The Fate of Atlantis. Perché? Siamo nel 1992, è un capitolo videoludico inedito, ovvero non tratto da un'avventura Indiana Jones vera e propria, quindi da nessun film, e propone una vera avventura grafica stupenda, nel senso, capace di coinvolgere tutti, di risultare affascinante, di riuscire a coniugare quello che era l'essenza del personaggio di Indiana cinematografico declinato in un linguaggio videoludico, quindi riuscire a combinare due elementi, due famiglie diverse, dando la forza di un titolo veramente stupendo. Nel senso, personalmente penso sia una delle migliori avventure grafiche che ho mai giocato, quindi ho un affetto particolare. E tanto è vero che da molti è ritenuto il vero quarto capitolo della storia di Indiana Jones, nonostante un film che magari molti avrebbero dimenticare. Probabilmente la sceneggiatura, la scrittura, la storia raccontata in questo gioco avrebbe meritato un destino diverso. Tant'è vero che alcune voci di corridoio, alcuni racconti, alcuni scoop, se vogliamo, parlano che raccontano che c'era la possibilità appunto che venisse tratto un film da questo gioco, anche se purtroppo, come la storia ci insegna, non se ne fece niente. Ecco, questo. Il che sarebbe stato anche un bene rispetto a quello che è stato fatto successivamente. Sì, diciamo che qualche elemento magari può essere fra virgolette, ricordato in questo, nello proprio Teschio di Cristallo, però diciamo che siamo proprio su due livelli. Qui praticamente un esercito di scimmie che trascina dei gessi su una lavagna rotta. No, anche se secondo me il Teschio di Cristallo vale solo per la scena. Cosa è frigorifero? No, neanche per quella. No, no, quella scena quella. No, vale quella scena. Vale il cappello comunque, frigorifero? Vale comunque. No, il frigorifero no. Dai. No, il frigorifero è il Jumping the Shark. Eh sì, no, veramente lì il frigorifero è proprio che cazzo state a fare. Cioè, veramente è... Ma non ne voglio parlare, lasciamo perdere. Poi un giorno ne parleremo da qualche altra parte perché è un film che secondo me per shock quasi, per trauma psicologico abbiamo voluto dimenticare o non abbiamo mai voluto parlare da nessuna parte. Ma in realtà facciamo male perché alcune cose se non vengono metabolizzate per bene poi ritorneranno negli anni. Detto questo, la scena chiaramente è una soltanto. A me l'unica cosa che posso dire è, metto un ricordo che non c'entra niente, ma voi sapete, io partecipo a queste puntate semplicemente perché mi ricordo delle cose. Io giochi della Lucas non solo li ho giocati tutti, ma li ho comprati tutti in tutte le versioni possibili e immaginabili. Addirittura c'era nell'epoca in cui uscivano i primi CD-ROM, che ancora io non è che, cioè nel senso, sì, compravo le riviste, leggevo roba del genere, ma insomma poi alla fine fondamentalmente leggevo solo quello che mi interessava a me. Un giorno io andai da Pergioco, non so se sapete, cioè a Roma, forse probabilmente anche a Milano, c'era, non so dove. C'era questa catena di giochi, di negozi di videogiochi che si chiamava Pergioco. Porto il catalogo a casa, a un certo punto vedo, perché volevo vedere se c'erano uscite le cose nuove della Lucas, Indiana Jones, Fate of Atlantis, Talchi. E sono rimasto, cioè, che vuol dire? Talchi, ah, perché CD-ROM, ah, quindi la versione parlata, italiano. Poi tra l'altro non era mai stato doppiato in italiano, però era comunque il... l'antisiniano, quello che poi sarebbe successivamente successo, quindi queste avventure che sarebbero state poi doppiate in italiano chiaramente. E quindi io dicevo, però già ce l'ho mo sto gioco, lo stavo pure tra l'altro ancora, non l'avevo manco finito, eppure sono ripartito, sono andato per gioco e me lo sono andato a comprare perché quella era la versione Talchi di Indiana Jones of Fate of Atlantis. E da lì in poi ogni volta che uscivano praticamente i giochi, Lucas che stava rifacendo tutte le riedizioni di tutti quanti i giochi, compreso Monkey Island 1, dove praticamente l'unica differenza c'era il fatto che c'erano le musiche in digitale anziché le musiche in MIDI con l'adlib. Quindi vabbè, mi ricordo questa cosa qui, perché ovviamente questa avventura non soltanto utilizzava l'iMuse, ma c'aveva anche, forse probabilmente è stata la prima che aveva un doppiaggio, e c'erano anche effetti sonori digitalizzati, perché c'è la scena in cui all'inizio praticamente lui si scazzotta con Smith lì con il tedesco, che anche nella versione a dischi sentiva sta scena, capito, questi scazzottamenti, che era gran figa. Grande gioco, grandi emozioni. Ora prevediamo. Vabbè, io porto esperienze dirette. La vita che trasuda da quest'uomo. Tu ci avrai giocato ieri a The Fate of Atlantis, su. Dai, no, ci ho giocato nel 2004. Me coglioni. Vabbè, dai. Ok. Tolto questo, appunto, altri giochi di Indiana Jones, non so se vogliamo rischiarci a citare, nel senso c'è questo, il desktop, scusatemi. Vabbè, sì. Desktop Adventures, che era quello, appunto, quello di cui parlavamo prima, simile per Yoda. E poi abbiamo due titoli più recenti, uno che era un ibrido tipo stile Tomb Raider, che penso che ricorderete tutti con un certo affetto, che era Indiana Jones e la macchina infernale. Mamma mia, che brutta. Che sinceramente andrebbe rivalutato se non fosse che abbastanza buggato già all'epoca, quindi poi si è trascinato in maniera in malo modo. E poi sulla falsa riga del nuovo film è uscito anche un certo Indiana Jones e la tomba dell'imperatore, che anche qui... Che super giù era una sorta di seguito spirituale, insomma. Ok. Cioè, nel senso che tecnicamente credo che i giochi non erano tanto dissimili. No, no, anzi, chiudiamo infine la lunga trafila di dolore e tristezza con Indiana Jones e il bastone del re. Questo addirittura del 2009, quindi un tentativo pseudo recente di poter portare qualcosa di nuovo nel panorama, ma con tristi e... Ma scusa, il bastone del re non è un'avventura amatoriale, no? Sbaglio? No, sbagli, è un gioco ufficiale. Ci sono poi diverse avventure amatoriali che sono uscite, o meno hanno provato ad uscire nel tempo, tipo c'è la Fontana della Giovinezza, se ricordo bene, così a memoria, però poche di queste penso siano uscite definitive, nel senso fino a completate. Indiana Jones e il bastone del re, recensione e gameplay. No, magari la recensione non ci interessa, faccio vedere il gameplay perché io questo me lo so perso probabilmente. Quindi l'affermazione ho giocato tutti i giochi di Lucas in questo in qualche modo già qua. No, no, ma io cioè, questi non so i giochi di Lucas. Non so i giochi di Lucas, mi dispiace, ma cioè, c'è un momento in cui nella vita uno ti dice quella non è più roba tua. Cioè, come mia nonna che cucina i fettuccine, nonna non sei più in grado di cucinare i fettuccine, insomma. Va bene, insomma, vabbè, sceneggiature dei film scomparsi, panoramica, l'hai fatta a questo punto. Facciamo un break? Facciamo sì, un piccolo break? Sì. Almeno no. Ripasso Jedi e parto a Jedi che sono... Ok, Jedi, sì, sì, stasera che stai dando il meglio di te. Ringraziamo ancora una volta Andrea Milana, www.vintagegameremix.com. Per questo nuovo remix che ci concede, che non è propriamente a tema, perché ovviamente parliamo di Golden Axe, che chi non se lo ricorda. E ritorniamo, sempre ringraziando Andrea Milana, alla seconda parte del Barnett College, che il nostro editore, nonché autore della puntata, ha chiamato Tramonto e Morte. Dunque, di che cosa si parla in Tramonto e Morte? Ovviamente, quando si parla di morte, non possiamo non citare Green Fandango. Scusate, ma purtroppo... La Bertonite sta dilagando. Infatti, l'apice di un genere, cioè nel senso, quando le avventure grafiche Lucas sono arrivate al non plus ultra dal punto di vista sia creativo che dal punto di vista della sceneggiatura, che dal punto di vista anche proprio prettamente artistico, perché insomma con questo abbiamo tagliato fuori un blocco infinito di avventure, insomma di grandi storie, però è giusto insomma riassumere, perché come ha detto anche Roberto nell'introduzione, in realtà di Lucas e delle peculiarità o di alcuni particolari giochi o insomma della storia di questa software house, insomma torneremo a parlarne, quindi stiamo giustamente facendo questa specie di excursus post mortem, diciamo così. Allora Roberto. Sì, perché Grim Fandango e perché Tramonte Morte? Allora, se pensiamo a Lucas, come ho detto tutta questa puntata, quindi mi sembra quasi inutile ripetermi, ma mi piace avere un aggancio facile. Quando parliamo di Lucas parliamo spesso di avventure grafiche. È più facile magari per chi è un giocatore da diversi anni ricordare questa casa appunto per questa tipologia di gioco. Ecco, Grim Fandango è, come ha detto gente Simone, l'apice raggiunto a questo genere. Per me, se Indiana Jones e Fate of Atlantis è comunque un punto di riferimento, un ottimo titolo, ecco, Grim Fandango per me è, insieme a Monkey Island, il gioco più bello che abbia mai giocato per diversi aspetti. È il primo gioco di Lucas in 3D, avventura grafica di Lucas in 3D, e siamo nel 1998. È un'avventura con una trama, con un coinvolgimento, con una caratterizzazione unica. Un'avventura grafica talmente strana che il mouse addirittura non esiste, tutto si muove attraverso tastiera. No. E quindi esatto. già questo, anche se secondo me era progettato per essere utilizzato con tastiera, ma ammiccando al fatto che tu potessi giocarlo con il joypad, secondo me andava verso le console quel tipo di sistema. Cioè, ho avuto sempre questa sensazione. Ma la cosa peculiare è che, nonostante questo, che per molti potrebbe essere, anche sparando adesso, se fosse un'avventura grafica che si gioca da tastiera, molti la definirebbero eretica. Ecco, nonostante tutto questo, tutti ricordano questo titolo come spettacolare. Io mento la scena finale, adesso non vorrei fare spoiler se qualcuno ancora magari là fuori, possibile, probabilmente non l'aveva mai giocato, però la scena finale in cui questa parte la musica e lui con la falce, diciamo, chiude il cerchio delle vicende, ecco, quell'immagine, quel ritmo, quel coinvolgimento che ho provato giocando questo gioco e il destino di Manny, ecco, veramente lo rendono un gioco unico, e probabilmente è stato il punto più alto, e da lì è stata una discesa probabilmente anche invocata, non so se preconizzata dal fatto di avere un titolo con questo argomento, Terra dei Morti, la fine di un viaggio, quant'altro. Ecco, Tim Schafer, che è l'altro grande grande uomo di Lucas insieme a Ron, che in qualche modo insieme ad altre grandissime personalità ha avuto modo di formare questa casa, ecco, ha saputo dare probabilmente il meglio di sé in questa produzione, e veramente io non è difficile riuscire per me a definire in parole quelle che sono le emozioni raccontando questo gioco, adesso che veramente è un titolo che ti porta veramente dentro e ti racconta per l'ultima volta qual era che era l'atmosfera di Lucas. Verranno altri titoli buoni, altri titoli interessanti, alcuni ottimi probabilmente. Ecco, probabilmente è l'ultimo titolo con un'anima veramente, l'anima veramente Lucas, che si può trovare al suo interno, non so se siete d'accordo. È stata un'avventura strana, molto strana, che raccoglieva dal punto di vista tecnico il sunto di quello che Lucas aveva raggiunto, e probabilmente, come dici, dell'apice, perché oltre lì, anche dal punto di vista economico e finanziario, probabilmente non si poteva più per un genere che era praticamente morto. Ma dal punto di vista artistico, anche se ammetto che allora feci fatica ad accettare un titolo così bizzarro, perché Lucas comunque poi fondamentalmente ha sempre avuto questo suo approccio molto politically correct, molto solare per certi versi, e quindi trovarsi un titolo così particolare da Lucas mi ha sempre fatto un po' strano. In realtà poi giocandolo mi sono immerso sia nell'ironia anche un po' oscura, insomma, di questo gioco, allo stesso tempo la poesia, soprattutto il finale che è stato, non so, poi dopo. Però sì, giocandolo, cioè, la sensazione che stavo giocando l'ultima cosa che mi sarebbe veramente piaciuta da parte di quel mondo, di quella realtà, ce l'ho sempre avuta, insomma. Sì, peraltro diciamo che nonostante il valore che da molti è ritenuto veramente elevato, quindi un titolo ottimo sotto numerosi punti di vista, dal punto di vista commerciale fu un mezzo flop, nel senso che le vendite probabilmente non riuscirono neanche a coprire quello che furono i costi di sviluppo, denotando quello che sarebbe stato poi il declino successivo. E fa un po' strano appunto vedere questi risultati a fronte di un titolo che probabilmente, pur nel suo essere ottimo, non rispecchia più i sapori oppure le idee di un pubblico che sta modificando le proprie abitudini. quindi non so se magari quello che dici te dall'interfaccia più simile a una console in qualche modo volesse leggere quello che era una dinamica che era comunque già iniziata. Beh, probabilmente loro avevano provato a dare ovviamente all'avventura tradizionale un dinamismo visivo diverso, e solo a quel punto molto più cinematografico, molto più dinamico, appunto, che probabilmente soltanto con il 3D avresti potuto, ma era un 3D ancora probabilmente troppo acerbo, no? E probabilmente loro non avevano neanche le risorse per poi costruire veramente motori grafici all'altezza, insomma, del compito. Quindi è stato un po' particolare. Rimane comunque, secondo me, sicuramente, non dico come dicono tanti, che magari sono molto rimasti legati per tanti motivi, forse perché fa effetto dire che non è Monkey Island l'avventura più bella, però sicuramente per me non è l'avventura più bella che hanno fatto, ma è stato probabilmente un'uscita di scena con grande stile, questo non lo metto in discussione. Non so se Alex ci ha avuto modo. Guarda, ti dirò, io ero rimasto un po' deluso da Full Throttle, se devo essere sincero. Attenzione. Perché non ho trovato un legame empatico con quel gioco. Mentre con i Monkey Island, con Indiana Jones, sì, cioè, cazzo. Quelle cose che dici, se avessi il tempo la rigiocherei una volta all'anno, è presente? Sì. Io lo faccio. Full Throttle. Beato te che c'hai tempo. No, sto scherzando. Full Throttle, che è quella veduta prima, mi ha un po' staccato, nel senso, tecnicamente bellissimo, eccetera, eccetera, però era uno sputo, c'era tanta grafica. La grafica è spettacolare, era un cartone animato. Secondo me, però loro, mi sembrava, esatto, ma pure lì hanno cercato. Mi sembrava un po' effimera come sì, cosa. Hanno cercato questo qualcos'altro, invece, infatti. Con Grim Fandango sono tornati a creare un mondo, e devo dire che la ricerca stilistica andava oltre la capacità grafica. Quello che penso è che, insomma, nel 1998 il pubblico dei videogiocatori stava cambiando, da nerd siamo diventati bimbi minchia. E bimbi minchia mi fregava il cazzo. Ah sì, non so, hai avuto tu nell'ultima puntata di Archeologia Videoludica, cioè, l'emblema stesso del passato è passato e il presente c'è, sì, sì. Poi Marrone ha fatto quello che ho pensato io. È riuscito a crocifiggere un bambino, insomma. Esatto, però ripeto, capisci che probabilmente non c'era più spazio non c'è più spazio neanche oggi per cose del genere. No. Perché pensa a quanti Call of Duty sempre uguali si rifanno, e ogni anno devi farlo uguale all'anno precedente, se no non va bene. Cioè, per cui c'è la voglia di continuità, la voglia di rifare sempre la stessa cosa e di avere un modello di business di questo tipo ha preso il sopravvento, e non c'era più spazio per questo tipo di sperimentazione. Io credo che adesso potete anche crocifiggere me oltre il bambino, forse sono vecchio dentro. Però anche un film interattivo barra avventura, quale potrebbe essere, come si chiama, Heavy Rain, non ha lo stesso livello di sperimentazione artistica che ha potuto avere un Grim Fandango. No, assolutamente no, assolutamente. Cioè, comunque dice, il Grim Fandango era comunque prima di tutto un videogioco, e dopo era un videogioco che aveva un suo sapore. Se io guardo Heavy Rain mi sembra di vedere un film, e dopo un videogioco, capisci che manca di quella personalità, di quella dell'essere pregno di qualcosa di originale, non per il gusto di essere originale, ma perché c'è un'idea fondante. Però questo forse è un discorso da anziano. Non so se sono, perché stavo pensando la stessa cosa, bravo. Non so se è un discorso da vecchio o se è la verità, cioè quando uno dice una volta si inventavano cose, no? Indipendentemente da che cosa erano queste cose. Però ecco, una volta si inventavano cose, oggi non si inventano. No, ma si inventano ancora da un'altra parte, si inventano nel mondo indie, però non hanno quella visibilità, non hanno quella. Ok, non stiamo a parlare del mondo indie. Cioè, LucasArts, Grim Fandango era il titolo AAA all'epoca. Cioè, nel senso, era il top del mercato, capisci? Cioè, nel senso, nel suo genere, chiaramente. Stiamo parlando di gente che era all'apice, come dice Roberto, delle sue potenzialità dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico, sperimentale e artistico. L'indie è un'altra cosa, cioè l'indie è uno che ti trova delle idee geniali, anche perché l'indie deve compensare alla carenza di mezzi. Allora, tante volte fanno il giochino con la silhouette e ti dice: guarda, io ho dato questo valore artistico della silhouette dove tu immagini. No, in realtà tu non sei in grado di poter fare meglio di quello, e giustamente compensi con questa, con questo approccio creativo. Però se tu avessi avuto 50 milioni di dollari probabilmente non avresti fatto la silhouette, cioè quello che voglio dire, no? Nel senso, il mondo indie è un mondo completamente a parte, quindi cioè, il problema è che per quanto si evolvano i motori grafici, quindi c'è comunque un'elaborazione sotto, c'è un'evoluzione tecnologica sotto, tra un Unreal Engine 2 e un Unreal Engine 3 ci sono grandi progressi, ma non c'è quella cosa che ti fulmina, no? Che dice: guarda che questa volta sono andati veramente, si sono inventati come, che ne so, il passaggio dallo stereo al THX sound system, cioè nel senso non c'è, capisci, oggi, probabilmente perché si sono anche inventati già tutto, probabilmente anche questo possiamo metterlo in considerazione. Ma ripeto, secondo me non è così, ormai la componente tecnologica è lasciata in disparte. Pensa quando alle caratteristiche tecniche di una, chi è che si sta facendo un succhiotto da solo? È sempre Bertoni che... Bertoni, mi fai schifo, ricordati che non devi commettere atti imburi da solo soprattutto, che sono ancora più imburi. No, veramente era semplicemente il cavo che mi è rimasto sotto il ginocchio, però grazie lo stesso. Sotto il ginocchio, ma questi stiamo proprio, questi altro che studi distribuiti dei PM, vabbè. Vai Alex, così dicevo, poi andiamo avanti. Le caratteristiche tecniche di della PlayStation 4 che hanno presentato, tutti dicono sì, però non è così potente come, infatti non deve neanche esserlo. Cioè, secondo me la ricercatezza non deve essere nella componente tecnica ma nella componente artistica. Ormai non dico che si può fare quello che si vuole, anzi siamo ben lungi, però si può fare un sacco di roba con queste macchine, tanto vale farlo facendo una ricerca artistica di un certo tipo. Che poi mi dici che l'indie usa la silhouette perché non ha i mezzi per fare la cosa, ma ben venga. Cioè i più grandi capolavori, sì, della letteratura non era del cinema, non è una critica, cioè nel senso, no, grandi capolavori della letteratura del cinema vengono fuori proprio da gente che non c'aveva i mezzi o non poteva farlo perché c'erano dei regimi, certo, per cui nel senso ben vengano i limiti e la fantasia che uno si deve sprecare per far, bravo, per bravo, tirarli bravo, fuori appunto che c'è, cioè, nel senso la creatività del mondo indipendente in generale, che sia nel cinema sia nel videogioco, in tantissime altre situazioni, è proprio il fatto che alla carenza di mezzi devi sopperire con l'unico strumento che c'hai, ed è la creatività. Ok, diciamo che al di là del discorso appunto che questi erano un po' degli artigiani, appunto senza voler essere dispregiativi e prendere il filo, quanto era proprio un'altra area. Se pensate a Bullfrog, Origin, tutte case che portano avanti produzioni AAA, ma che nell'innovazione, comunque nella capacità di creare qualcosa, si distinguevano dalla massa. Adesso un qualcosa che difficilmente trova un paragone in questi anni, se non forse la CD Projekt di The Witcher, non so se la conoscete, ecco, forse lì si può trovare qualcosa di simile, però veramente siamo... Sì, anche se secondo me, ecco, dagli il tempo di tirar fuori The Witcher 3, vedi che saranno rientrati nei canali, negli standard, insomma, della produzione AAA, cioè nel senso che sicuramente... Il problema di fondo è che, come dicevamo prima, secondo me prima c'erano... c'era l'esigenza, c'era anche più fantasia, c'era anche proprio uno spirito, come dicevi, più artigiano, nel senso che stavano lì, sì, ok, come ho letto da qualche parte, no? Cioè loro facevano Monkey Island, e Monkey Island erano 60 schermate, mettevano 6 schermate in più perché tanto sapevano che quando andavano dall'amministrativo, l'amministrativo gli diceva sì, vabbè, però 6 schermate le trovate il sistema, perché così risparmiamo. E così lo facevano, il gioco che volevano far loro, che era già automaticamente decurtato, delle scene che avevano messo in più per farle eliminare, no? Ci dicevano cancellatene 6, quelle che volete voi, ma cancellatele. Cioè, nel senso che oggi è tutto più industriale, è proprio industriale, ma lo deve essere per forza, perché un gioco oggi non ti costa più 2 milioni, 5 milioni di dollari, cioè questi tanti giochi costano 30, 40 milioni di dollari, anche di più, quindi in linea massima è chiaro che l'approccio è completamente diverso, e anche la necessità finanziaria di un ritorno è obbligatoria, perché sennò, cioè, non sompano solo teste, ma sompano aziende, sompano posti di lavoro, quindi è proprio diverso. Però è chiaro che vedendolo da come si approcciavano loro nel fare le cose, è chiaro che è più divertente ricordarlo, non solo per un fattore romantico, quanto proprio perché comunque c'era una creatività che oggi probabilmente in un certo senso manca. Sì, penso che tu proseguendo appunto nel presentare questa cosa emergerà ancora di più, nel senso che cambia proprio anche il paradigma economico con cui Lucas produce i giochi. Esatto. Va bene, io direi a questo punto di arrivare al penultimo punto di questo episodio, che è un punto un po' particolare, soprattutto perché io ci sono molto legato, ovviamente, come dice, vabbè, tutto quello che ha detto in questa puntata, non in tutto, però questo in particolare, perché non so se, vabbè, chi c'ha l'età mia si ricorderà sicuramente che mentre che le avventure Lucas evolvevano, giravano sempre dei rumors che poi sono sempre stati smentiti, che erano quelli di un'avventura grafica sul mondo di Star Wars, che chiaramente un'avventura grafica non è stata, non credo sia neanche mai stata pensata probabilmente. Anche se tutti, ovviamente gli appassionati di avventure grafiche di Lucas, insomma, ci hanno sperato, però ci sono andati vicino, perché in realtà secondo me uno dei più bei giochi sull'ambientazione di Star Wars è Knights of Old Republic, che è un gioco di ruolo nel senso tradizionale, come li faceva BioWare in pratica, quando BioWare era ancora BioWare e non quella casa che noi denigriamo ogni volta su dietrologia videoludica. E Roberto, vogliamo fare qualche accenno a questo che è stato veramente un enorme capolavoro, perché è un gioco immenso. Sì, diciamo che appunto qua introduco il discorso che stavo lasciando prima, ovvero che cambia il paradigma economico, nel senso in quegli anni, qua siamo nel 2003, si inizia a dare in licenze. Scusa, ti interrompo dicendoti che 2003 significa l'anno dopo l'uscita del secondo film della nuova trilogia, cioè praticamente dove viene stabilita una nuova Guerra Stellari, un po' più larga, molto più colorata, molto più variegata. Questo per far capire che questo gioco ha molto più che spartire con la nuova trilogia, che appunto si svolge 20 anni prima, piuttosto che con la trilogia originale. Sì, diciamo, dal punto di vista, chiaramente è importante questa contestualizzazione, perché ci permette appunto di capire anche meglio quella che è la storia e comunque i risvolti che ha la trama all'interno di un gioco di ruolo a 360 gradi, come diceva giustamente anche Simone. La cosa che vorrei proprio mettere a questo punto è il discorso che si passa appunto alla gestione in licenza, ovvero Lucas, i studi di Lucas dopo i fallimenti delle due avventure grafiche, quindi parliamo di Grim Fandango, come detto hanno avuto grossi risultati economici, e del quarto capitolo di Monkey Island inizia a licenziare persone in maniera sempre più massiccia. Questo cosa comporta? Un impoverimento degli studi interni e concedere sempre più spesso in licenza dei titoli ad altre case. Il Cavaliere della Vecchia Repubblica, mi piace italianizzarlo così evitiamo, ma lo italianizzi perché non sei capace di Knights of the Old Republic. Knights, dai, vabbè, ok. È probabilmente uno dei risultati meglio riusciti all'interno di questa politica, nel senso che, come dice giustamente ancora Simone, che non smetterò mai di lodare e di venerare come unica divinità nel mondo dei podcast. Lo so. Ti capisco, è un fascino che non riesce a togliere, è un po' un guardiano Jedi del mondo dei podcast. No, è un gioco che seppe coniugare in maniera ottimale sia tutta quella che è la mitologia legata a Star Wars, sia una tipologia di gioco, il gioco di ruolo, che permette probabilmente di medesimarsi in maniera migliore rispetto ad altre tipologie, tipo l'avventura grafica o le avventure spaziali di cui parlavamo poc'anzi, e nel farlo rende veramente diciamo il giusto merito anche alla nuova trilogia. Questo rilacciandomi un po' a quello che diceva anche Alex prima, nel senso che parla di una mitologia allargata, non si limita più a scimmiottare quello che sono le avventure di Luke Skywalker, ma prende l'universo di Star Wars a tutto tondo, permettendoci di conoscere probabilmente anche dei risvolti o delle pieghe che non erano ancora entrate nel canone classico, ma che stavano entrando nell'immaginario. Adesso, se magari volete parlare un po' anche dei collegamenti col film o delle vostre esperienze, credo che comunque sia uno dei punti più alti per quanto riguarda il discorso del rilascio delle licenze. Quindi 5 anni dopo Grim Fandango, comunque un ottimo titolo. No, assolutamente sì, ma a parte un ottimo gioco di ruolo in senso classico, quindi anche abbastanza articolato, non tanto sulla difficoltà, che ovviamente i giochi allora non so come i giochi da adesso, ma sul fatto che comunque è stato veramente un gran gioco. Tra l'altro anche, come diceva Roberto, anche svincolato da quello che è il plot, insomma, dalla continuity dei film di Star Wars, tant'è che questo addirittura è ambientato qualche migliaio di anni prima della storia dei film. Grande gioco, che ci ha avuto anche un seguito, che non fu poi più gestito da BioWare, ma se non ricordo male da Obsidian, bravo, che subentra, esatto, sempre nei loro giochi, però fa niente. Sì, diciamo che fanno i seguiti oppure utilizzano i motori creati per altri giochi per fare, ecco, come è stato con Fallout New Vegas, e non sempre anche a sproposito, perché comunque con New Vegas hanno fatto tra l'altro un ottimo lavoro, perché si vede che Obsidian è specializzata proprio sul gioco di ruolo nudo, crudo e radicale, insomma, per certi versi. Ah, io l'ho amato molto sto gioco, anche se devo dire che vorrei comprarmi un PC solo per rigiocarmelo bene, perché purtroppo su Mac ci ho avuto tantissime difficoltà per fare un revival fatto in una certa maniera, anche con i sistemi di crossover per poter giocare a giochi PC, però insomma, gioco assolutamente da prendere. Non so se Alex ci ha avuto mai modo di metterci mano, quantomeno di averlo ascoltato, sentito, insomma. Purtroppo devo dire che no, anche perché secondo me non è neanche il gioco per te, cioè nel senso che è un gioco che veramente ci devi dedicare il tempo, cosa che io purtroppo poi dopo più siamo andati avanti negli anni e più non abbiamo avuto, insomma, e questo senza meno. Quindi Roberto, se vuoi chiudere con questo piccolo capitolo, passiamo poi al punto finale, poi andiamo magari anche alle considerazioni. Sì, no, nel senso che semplicemente, se vogliamo ricordare questo gioco, al di là del suo valore, è appunto, come dicevo all'inizio della trattazione, che è il simbolo della nuova politica di Lucas, che già denotava comunque un abbandono di quello che era l'immaginario classico della casa californiana, nel senso che noi tutti abbiamo sempre pensato Lucas come la casa dove i sogni venivano generati, ecco, vedere che i sogni venivano dati in licenza e in subaffitto, diciamo che in qualche modo, esatto, ci poteva già purtroppo, anzi ci poteva, faceva già purtroppo presagire quello che sarebbe stato poi un destino. Il fatto che poi... Ma anche perché probabilmente il team interno di Lucas non era neanche un team in grado, no, di lavorare questa tipologia di giochi, perché era comunque costruito su altri presupposti, soprattutto quando si parla di giochi d'azione, anche se poi, come abbiamo visto con Rebel Assault, però bisognerebbe vedere poi se realmente sono stati sviluppati internamente o semi internamente, perché sai, poi io con la storia da sto punto di vista purtroppo non la conosco un granché, sì, bene. Diciamo che probabilmente non, come vedremo fra poco, c'era già un percorso avviato di chiusura totale, quindi appunto la produzione interna veniva sempre più abbandonata, e sono gli anni anche in cui se ne vanno le menti pensanti, su quel team fantastico di persone che si era riunito, Ron Gilbert, Tim Schafer, eccetera eccetera eccetera, che abbandonano un po' la barca, diciamo, probabilmente non con voglia. Comunque questo magari lo teniamo per le considerazioni finali. E basta, nel senso che arriverai appunto magari all'ultimo pezzettino. Sì, arriviamo all'ultimo punto, che però, ecco, mentre che tu dicevi queste ultime due frasi, in realtà poi riguardando un po' tutto il percorso, riguardando anche uno di questi titoli di cui parleremo probabilmente in maniera estremamente breve, probabilmente è stata anche la conclusione naturale, perché quello che dicevamo, che probabilmente questa tipologia di giochi era una tipologia che stava perdendo il suo appeal verso il pubblico, e probabilmente la tecnologia a disposizione non era più la tecnologia all'avanguardia rispetto a quello che c'era in circolazione, e quindi insomma arrivano i progetti cancellati e quella che poi possiamo chiamare la fine dei giochi, nel senso comunque la chiusura di progetti e la chiusura anche del team, cioè quindi del laboratorio di sviluppo di Lucas, Roberto. Sì, infatti se nel 2003 abbiamo appunto il gioco di BioWare, è sempre nel 2003 la chiusura di due progetti sempre legati al mondo avventure grafiche, che era Full Throttle 2, che è stato cancellato appunto per mancanza di interesse, fondi o possibilità economiche, a cui poco dopo è seguito anche la chiusura del seguito di Sam & Max. Partiamo da due presupposti. Innanzitutto che questi due titoli erano sicuramente molta carne al fuoco per quanto riguarda le avventure grafiche, ed è probabilmente stato un peccato che non sono arrivati a poter definire un progetto completo che potesse essere presentato sul mercato. Però era probabilmente lo sviluppo naturale di, da una parte, la fuga di cervelli che ha colpito Lucas, dall'altra la mancanza di interesse per un genere, le avventure grafiche, che ormai si avviava non sul, diciamo anche sul viale del tramonto, anche se poi alcuni titoli ottimi o comunque passabili sono usciti anche in questi anni, ma non era più un riscontro del grande pubblico. E in ultima analisi non c'erano più le forze interne, la creatività, la voglia di stupire che probabilmente aveva caratterizzato i primi anni. E quindi purtroppo sono tutti giochi che in qualche modo sono stati cancellati. Pensiamo che anche ultimamente con l'acquisizione da parte di Disney altri titoli sono stati cancellati, e quindi questo è probabilmente il cerchio che si chiude. Nel senso, se vogliamo riassumere la storia di Lucas in due grandi blocchi, quindi fino al 2003 all'incirca, e dal 2003 ad oggi possiamo vedere che chiaramente con paragoni, dinamiche, riscontri diversi, le storie sono molto simili, tant'è vero che Lucas ha pubblicato qualche gioco originale anche negli anni successivi al 2003, qualche IP nuova, ma il successo chiaramente è stato lo stesso dei primi anni 90. Il voler sempre sfruttare sempre più la gallina delle uova d'oro che è Star Wars ha portato poi a impoverire tutto quello che era la creatività del gruppo, e quindi ha portato un po' a chiudere le tende su quello che era comunque una casa dei sogni. Mi piace ricordarla così, lo so che magari è molto abusato come termine, chiaramente non è a livello del mio titolo dell'episodio, che è sicuramente di un altro pianeta. No, però... no, certo, assolutamente non è all'altezza, insomma, del titolo che tu hai inventato. Comunque, i titoli che hanno rappresentato la chiusura di Lucas, i titoli che sono stati chiusi sono stati uno Full Throttle 2, e se vi andate a vedere il trailer lo trovate abbastanza tranquillamente su YouTube, capite anche il perché ovviamente con il percorso iniziato con Grim Fandango, chiaramente i progetti Lucas proseguivano da quel punto di vista, quindi andavano su questo engine 3D progettato appositamente per le sue avventure grafiche. E l'altro era Sam & Max, sì, se non sbaglio, il che poi si è ripreso un po' a Telltale per tutte le serie episodiche, se lo so ciucciato loro, e quindi esatto, quindi insomma da quel punto di vista Alex, se tu, che tra l'altro non hai amato granché Full Throttle, in effetti Full Throttle, come abbiamo detto, è stato poi il gioco molto pomposo, nel senso pieno di grafica, di animazione, di musica, probabilmente uno dei primi che usava una colonna sonora heavy metal appositamente realizzata, quindi sicuramente poi era un gioco abbastanza corto, però rimmaginati Full Throttle, quindi il personaggio Full Throttle, però trasposti con quel motore 3D che era quello di Grim Fandango, probabilmente forse anche una sorta di evoluzione. Che però, nonostante questo, quando arrivarono le notizie e fu pubblicato il primo trailer, tutti eravamo comunque in attesa, perché tutto avremmo accettato purché fosse un'avventura grafica di Lucas, e poi in realtà è andata insomma tutto insomma come è andato a finire. Quindi io poi non so se volete aggiungere altro in merito a questo, perché insomma penso che oramai l'excursus in generale su quello che è stato storicamente l'inizio, l'apice, il declino di questa casa, insomma penso che l'abbiamo fatto, ovviamente tralasciando dei punti importanti, anche fondamentali, oppure semplicemente citandoli, perché poi, come abbiamo detto, insomma nel percorso, nella carriera di archeologia videoludica sicuramente torneremo a parlarne. Insomma era un atto dovuto fare questa sorta di parentesi, questa sorta di arcobaleno sulla storia del videogioco, che è stata veramente un pezzo importante, perché non soltanto dal punto di vista evolutivo, quanto dal punto di vista creativo, dal punto di vista artistico, insomma che è stato veramente un momento veramente importante. Alex, se c'hai qualcosa da inserire all'interno di questo discorso. No, beh, non vorrei aggiungere altro a quello che hai detto tu e che abbiamo già detto sia qui che in dietrologia videoludica. Infatti penso insomma che poi in realtà poi rischiamo insomma soltanto di ripeterci, lo facciamo anche perché magari non è detto che sia lo stesso pubblico, in realtà Io penso di sì. Massima, Roberto? Beh, insomma, consigliamo, scusa. Consigliamo al pubblico che non, magari non ascolta Dietrologia Videoludica di ascoltare, secondo me, una delle puntate più belle di Dietrologia Videoludica, che la, dimmi il numero, la 10. Adesso non ricordo, sì, adesso te lo dico al volo, mentre che tu tanto... Insomma, in quella puntata che praticamente abbiamo fatto quasi in diretta, perché l'abbiamo registrata il giorno stesso che abbiamo saputo della chiusura di LucasArts da parte di Disney. Insomma, è stata una puntata molto particolare, perché mentre di solito con Dietrologia Videoludica si fa un esame molto molto attento, molto politico, economico e sociale di quello che c'è dietro l'industria del videogioco, quella puntata è stata una puntata molto più di pancia, sì. Perché insomma, tendenzialmente tutti noi siamo cresciuti con queste avventure grafiche, con questi giochi della Lucas, e anche se eravamo ben consci che da 10 anni Lucas non era più la stessa Lucas di allora, però comunque era comunque un nostro punto di riferimento, un faro, e ognuno di noi ha tirato fuori la propria esperienza relativa alla propria infanzia videoludica, mettiamola così. Sì, per cui infatti, guarda, è una... vai. No, diciamo, una puntata molto più meno filologica di quella di oggi, ma molto più a Marcord, diciamo. Esatto. Quello che non è stata questa puntata. Esatto. Infatti 1X09, Funeral for a Friend, 1X09, che è stata la puntata che abbiamo fatto praticamente in concomitanza della notizia, perché è stata una notizia che ci ha talmente colpito che in poco noi abbiamo organizzato questo episodio, che è stato, come diceva appunto Alex, un episodio amarcordistico, puramente amarcordistico, senza neanche un vero plot, senza una vera traccia, così come facciamo di solito, insomma, sulle puntate di Dietrologia Videoludica, mentre che qui su Archeologia Videoludica Roberto ha voluto celebrare, diciamo così, questo evento in una maniera completamente diversa, che è quella del tracciare ovviamente una linea di una software house che, come abbiamo detto appunto, è stata fondamentale e determinante. Poi è chiaro che adesso c'è tutto un lavoro che insomma aspetti, che riguarderanno anche il futuro, anche cose che sono uscite recentemente, come si chiama il gioco, quello nuovo che hanno fatto completamente online. Lo dico io, Star Wars The Old Republic, perfetto. Che è l'MMORPG, sì, insomma, di BioWare, si interessa. BioWare, esatto, e Electronic Arts hanno ovviamente fatto. Tra l'altro era un gioco, e questo anche che probabilmente è stato un gioco che ha determinato, che ha fatto capire, e probabilmente anche a chi analizza un po' il mercato, e non soltanto il mercato, ma il mondo dell'industria videoludica in generale, ha fatto capire quello che stava succedendo in Lucas, perché prima ancora della notizia di Disney, che cazzo è successo? A chi? Chi è partito? Ma vaffanculo, è partito. Scusate. Prima ancora della notizia di Disney, sapevamo che questo gioco aveva LucasArts come elemento fondamentale del progetto insieme a BioWare. Poi in realtà LucasArts annunciò proprio il suo distacco completo anche da questo progetto, che rimaneva completamente nelle mani di Electronic Arts e di BioWare, e quindi questo insomma determinava il fatto che sicuramente qualche notizia prima o poi sarebbe uscita fuori. Poi c'è stata appunto l'acquisizione di Disney di tutto quello che è il patrimonio Lucas, le dovute conseguenze, che lasciamo ovviamente come riflessione finale a Roberto, che non avendo poi partecipato anche alla puntata che abbiamo fatto di Dietrologia Videoludica, ha comunque il modo e la possibilità, insomma, di fare le sue considerazioni finali. Roberto? Sì, diciamo che quello che sugli ultimi anni di Lucas possono essere assunti dai numerosi cambi alla presidenza che ha avuto, nel senso che si sono alternati diversi personaggi, ognuno cercava di impostare una rotta diversa, ma tutti difficilmente potevano portare la nave in salvo senza, diciamo, il patrocinio di quello che era proprio George Lucas in persona. Vorrei ricordare qui un ultimo titolo che probabilmente non è così conosciuto, ma ritengo comunque importante, che è Lucidity, che è del 2009, se non ricordo male, perché è stato l'ultimo titolo interessante come IP originale fatto da Lucas. Ecco, se pensiamo che stiamo parlando del 2009, appunto, di 4 anni fa, potete capire che la chiusura da parte di Disney era praticamente dovuta dal punto di vista economico. Come detto in altre sedi, era dovuta dal punto di vista economico, ma non era così dovuta dal punto di vista dei nostri cuori, dei nostri sogni. In qualche modo si sperava sempre che in qualche modo si potesse tornare ai vecchi fasti. Oggettivamente non era possibile, quindi questa è stata, diciamo, la chiusura naturale, come di Lucas, come di Origin, come di Bullfrog, di tutti quei, ripeto, artigiani dei videogiochi che in qualche modo seppero portare il valore dell'artigiano a livelli di AAA, se non dal punto di vista, se vogliamo, dei valori di produzione, sicuramente dal punto di vista emotivo. Anche se Origin un po' se l'è cercata, come in Commander. Insomma, quando poi, come dicevano i francesi, quelli del nord della Francia, quando cacchi fuori dal vasetto, è chiaro, insomma, che poi dopo, se non rientri, la cacca ti sommerge. Detto questo, io direi, senza colpo ferire, andiamo in una versione un po' inedita, un po' particolare, perché è indifferita, di Kits and Google. Perfetto. Kits and Google. Ok, iniziamo immediatamente questa nuova versione particolare di Kits and Google, particolare perché, come abbiamo già detto in precedenza, siamo in differita. Marco, ciao, benvenuto. Io sono in differita, tu sei in diretta. Spieghiamo questa cosa, che io dalla differita, essendo ovviamente in un'altra dimensione, posso sapere che cosa sta succedendo nel futuro, e quindi so già che tu stai facendo queste affermazioni e posso tranquillamente risponderti. Ok, quindi c'è uno strappo temporale fra me e te. Più o meno sì, possiamo definirlo così. Diciamo che dentro è più grande di fuori. Okay. Questo. Ok, la puntata della Lucas è la puntata dove ovviamente Marco, purtroppo per motivi tecnici, non ha potuto partecipare, ma si è preparato anche in questa occasione, anche perché lui era un grandissimo giocatore di avventure grafiche, giusto? Io continuo a giocare Monkey Island continuamente, arrivo sempre allo stesso punto e finisco. ovviamente iniziato quel gioco, è il gioco che ho iniziato di più di tutto. E non hai mai finito? Non l'ho mai finito, non perché mai finito. Sai, se finisse poi sarebbe brutto, so che finirebbe un mondo. Tant'è, per venire un po' alla prima curiosità, che tu, se non ricordo male, tempo fa mi dicesti che ti sarebbe piaciuta una versione di Action Adventure. Action Adventure di Monkey Island, addirittura, esatto. Uno sparatutto in prima persona, ma anche un po' stealth, io avrei messo con qualche sequenza stealth, quando deve entrare dentro la magione del governatore e avvelenare i cani, anzi addormentarli perché non possono essere ovviamente colpiti a morte, però magari una situazione stealth dove si può passare o polpettizzare i cani oppure andare alle loro spalle accucciati, perché no? Si potrebbe fare, no? E per un attimo hai avuto la sensazione che qualcuno stesse per realizzare il mio sogno di giocare finalmente a un Monkey Island Action Adventure poteva quasi avverarsi quando ho visto questo video. Infatti è un video realizzato col motore Cry, quindi col Cry Engine, quello di Far Cry, quello sicuramente di Crysis o Crisis, ancora devo capire come cacchio si dice. Crysis. E quello di Far Cry, sicuramente. Far Cry. Il Cry Engine, in cui ci mostra alcuni scenari di Monkey Island 2 più un extra di Monkey Island 1, realizzati appunto in 3D, che sembra quasi la versione, quella che è stata rifatta ultimamente, quella rimasterizzata, un po' più cartonosa, ma che però è in 3D, quindi completamente in 3D. Esatto, ci si può interagire, si possono spiaccicare rospi, tirare banane, giocare con i granchi e i polli e andare sott'acqua e trovare un incontro strano. In buona sostanza, questo, cioè, vabbè, giusto per spiegare che cos'è questo video, questo è un tizio che non si sa dove ha trovato. Un malato di mente, sì, che sicuramente si sarà scaricato sui mule. Dove aveva trovato il Cry Engine e ci ha ricostruito tre scenari di Monkey Island 2 e uno di, anzi, due scenari di Monkey Island 2 e uno di Monkey Island 1. E dobbiamo dire che è un porco lavoro, insomma. Cioè, faccialmente... poi ci ha messo dentro la nano suite e ha cominciato ad andare in giro, a interagire col mondo. Era praticamente il personaggio di Far Cry dentro il mondo di Crysis. Ok, scusa, vabbè, sai che io questi giochi violenti non è che ci faccio. C'è la violenza senza la gomma e la colla, quindi. Esatto, bravo, soprattutto se non c'è un pollo, se non c'è un minimo di edulcorazione, tu non la giochi. Bravissimo. E rimaniamo sempre nell'ambito dei video. Che altri video hai trovato? Ho trovato un bellissimo video in cui cioè praticamente la versione di Star Wars completamente rifatta nella nuova versione che sarà poi quella ufficiale, no? Perché adesso ultimamente Lucas aveva rimaneggiato la sua trilogia ufficiale inserendo manco una volta sola, poi no, più di una volta diciamo, però ultimamente aveva inserito scene tagliate, aveva fatto trasformare Anakin vecchio nel, diciamo, nell'ultimo minuti dell'ultimo capitolo, l'aveva sostituito con quel simpatico, come si chiama l'attore, Christian Hayden, versione giovane, una cosa, un obbrobio schifoso, e quindi hanno deciso, sicuramente decideranno di fare una versione Walt Disneyzzata, quindi con i personaggi di Walt Disney che entrano dentro proprio Guerre Stellari, e quindi avremo Darth Mouse con i suoi ammiragli piccioni che vengono strangolati e via dicendo, invece che il Millennium Falcon avremo un Millennium Falcon versione Cars, che vabbè, io vi suggerisco di vederlo, tanto le mettiamo tutte quante nelle note, no? Mettiamo le note, sì, mettiamo tutto quanto nelle fottutissime note, fottutissime note. Sì, perché c'è molto odio poi per la Disney, eh? Perché ovviamente questo è una sorta di perculata, insomma, verso Disney, ma addirittura fatta anche con un bel po' di speech, insomma, qualche baiocco, insomma. Sì. Ma secondo me poi, tra l'altro, secondo me per farci credere che i fan di Lucas hanno fatto questa cosa contro la Disney, in realtà secondo me è la Disney stessa che ha prodotto questa cosa, anche perché, insomma, guardatevelo, non è un filmino insomma da quattro spicci, no, appunto, no, come dicevo. Infatti due spiccetti ce l'hanno messi sopra. Invece ce n'è anche un altro. Da due spicci invece è il filmato dove invece i fan della Lucas un po' cercano di vendicarsi in qualche maniera. Esatto, questo ce l'ha segnalato il nuovo podcast Cadavera Caffè. Calavera. Vedete che con le avventure grafiche Purtroppo non ce fa. È praticamente un simpatico video in cui c'è una strana implosione dimensionale, diciamo, più o meno come quella di stasera, dove io sono nel passato, Pizzo nel futuro e ci incontriamo nel presente, no? È una cosa del genere. E quindi abbiamo tutti quanti gli eroi della LucasArts. Tra cui Sam e Max, il personaggio di Full Throttle, che non mi ricorderò mai come si chiama, e Guybrush, c'è anche Guybrush Threepwood, ma anche Indiana Jones, inspiegabilmente. Sì. Indiana Jones sono anche i personaggi di Day of the Tentacle, che esatto, sarebbero quelli di Maniac Mansion, che improvvisamente si trovano tutti quanti insieme, e dice: ma che sta succedendo? Perché ci troviamo tutti quanti insieme? Perché c'è anche Indiana Jones in tutto questo? Perché c'è una forza del male che sta praticamente distruggendo il pianeta del mondo delle avventure grafiche. E chi ci sarà mai dietro tutto questo? Forse il fantasmone LeChuck? Secondo me vale la pena dargli un'occhiata e scoprire chi sarà il Lo diciamo? Ma no, chiamiamo un po' di pathos. Era bello a sganazzoni, perché poi finisce a sganarsi e sangue, quindi io consiglio anche questo di vederlo. Sì, va assolutamente visto. E poi c'è un altro filmato che abbiamo sempre trovato scavando con le unghie nel fango della rete, e c'è praticamente... di che parla? Io me lo sono dimenticato. Non lo so, non mi ricordo. Di che cosa parlerà? Vediamo un po'. Aspetta che frugo nel fango. Ma forse è quello del riassunto? Quello del riassunto, è quello del compendio, proprio del 5 minuti. È un riassunto. Ma di più di un riassunto, perché è più qualche cosa, anche lì una, diciamo, contrazione dimensionale. Praticamente tutto il gioco di Monkey Island. Il primo. Riassunto in 5 minuti. Riassume, è proprio ristretto. Non riesco proprio. Io direi anche spiegato in 5 minuti, perché in realtà poi alla fine il succo c'è tutto. Ci sta tutto, ci sono tutte le frasi celebri, c'è tutto quante le battute, c'è tutto. Tutto. In 5 minuti, è un filmato non originale, perché in realtà è stato doppiato in italiano, bene, perché comunque chi lo fa è... E mi stavi dicendo che lo conosce Simone, è proprio l'amico suo, l'abita sotto il suo letto. Non è un mio amico, lo conosco perché seguo il suo canale, seguo il fatto che lui sia un doppiatore, che poi è il ragazzo che in realtà legge le recensioni, le video recensioni su multiplayer.it, adesso mi sfugge il nome, ma comunque uno che sa il fatto suo, insomma, che non vive sotto il tuo letto. Quello è l'uomo ombra. È l'uomo ombra, anche tu ne hai uno. Sì, però è l'uomo ombra di un altro, che vive sotto il letto di un altro. Esatto. E quindi io vi suggerisco di vederlo, perché è molto divertente, e soprattutto è proprio la summa di Monkey Island in 5 minuti. Vi vedete questo e poi basta, inutile giocare il gioco, no? Sì, perché chi ha giocato il primo gioco non soltanto si fa due risate sul fatto che comunque ovviamente c'ha un piglio comico questa riassunto in 5 assolutamente minuti. Però allo stesso tempo ti fa rivenire la nostalgia delle atmosfere, delle situazioni, perché insomma è da scompisciaggi. E nel suo canale tra l'altro ci sono anche altri compendi simili, insomma, altri riassunti in 5 minuti di tutti gli episodi di Tale of Monkey Island, quello della Telltale. Quindi, che insomma, però non poi... ci frega. No, adesso non ci frega. Suggeriamo così invece un sito che, anche se il secondo speciale che facciamo su Lucas, in realtà poi alla fine non abbiamo quasi mai parlato, che è lucasdelirium.it del grande Didus, che poi fondamentalmente non è nient'altro che una sorta di super enciclopedia della Lucas in italiano, forse probabilmente l'unica vera Wikipedia lucasiana, esatto, l'unico vero super archivio Lucas, insomma, e qui oltre a tutte quante le questioni inerenti ai giochi, la storia, tutto quanto, cioè, ci sono anche i giochi quelli non ufficiali che sono i seguiti, che non so, di vari Monkey Island, c'era anche i fangame, sì, fangame, c'era anche oddio. Vabbè, comunque se voi andate a vedere ci sono anche dei ovviamente giochi non ufficiali che sono stati rilasciati, a volte anche ritirate previa minaccia Lucas, probabilmente, ovviamente. Però sono dei seguiti non ufficiali di giochi famosi, e ci sono tra l'altro anche delle curiosità, perché ci sono gli elenchi dei giochi, delle avventure grafiche Lucas, e tra i vari nelle schede, tra le varie voci ci sono anche le curiosità, tra cui, che ne so, il nome di Guybrush Threepwood, da che cosa deriva, dal fatto che il nome del pupazzetto Guy fu salvato in paint, ovviamente era Guy.brush, per cui da lì è venuto il nome. Per quanto riguarda poi Threepwood, era un personaggio di uno scrittore che si chiamava, mi sembra, Woodhouse o una cosa del genere. Insomma, ci sono tante belle cosine, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata, e sicuramente ci troverete tante informazioni utili, anzi no, tante informazioni inutili, però è quello il bello, perché... No, utili per chi è appassionato, perché certo. Comunque ribadisco, oltre a tutte le schede dei giochi, la storia della Lucas e anche la storia post Lucas, roba del genere, in ogni scheda di ogni gioco, oltre a tutte le informazioni necessarie, ci sono questi extra e curiosità che sono assolutamente da tenere in considerazione. Io penso che anche questa volta te la sei cavata, il nostro sporco lavoro. Te la sei cavata, sì, hai sbagliato. Però io, se vuoi, c'ho anche dei filmati sullo Spectrum che potete riciclare, tanto quelli ce li ho tirati fuori dalla puntata sul ZX. No, quelli... mi sono avanzati, le possiamo far vedere in qualsiasi che non momento. Erano poi tra l'altro neanche nella puntata giusta, insomma. Ma sai, io se hai trovato, dei giochi, cioè tipo Monkey Island su Spectrum, conto, ma insomma, se no lasciamo perdere. Allora, portiamocelo in mezzo, vediamo un po'. Insomma. Allora, a questo punto ripassiamo la linea a me nel presente e tu devi andare nel futuro. Io devo tornare nel futuro. Adesso siamo nel presente, io torno nel passato, tu vai nel futuro e ognuno per la sua strada. Ok. A proposito, nel futuro, come sono andate l'incontro col PD? Ciao. Ok, ringraziamo Marco, simpatico come sempre, insomma, con le sue ricerche, insomma, di elementi perculistici che riguardano ovviamente il tema della puntata. Giustamente Alex, mentre ascoltavamo quello che diceva Marco, quindi non lo ascoltavamo, insomma, in realtà, perché parlavamo fra di noi. questo per far capire che ce ne frega, ma noi gli vogliamo bene lo stesso. Ci fanno dare il fatto che c'è poi la notizia, non è soltanto il fatto che Disney ha acquisito tutto il patrimonio Lucas e poi ha comunque conseguentemente chiuso LucasArts come gruppo di sviluppo, ma il fatto che, Alex? Ah, lo dico io? Oh, che bello. Sì. Beh, fondamentalmente Disney ha detto: facciamo i giochi di Guerre Stellari e lo sviluppo di nuovi titoli basati sull'universo di Star Wars sarà fatto da Electronic Arts. Dunque studi che tipo DICE, come si dice, Visceral. E BioWare. I nuovi giochi, dal comunicato, potranno sia prendere spunto dalle opere cinematografiche, cioè i primi 6 film e anche i 3 che verranno, oppure proporre nuovi filoni narrativi e nuovi tipi di gameplay. Si è sentito dire che, appunto, i giochi non saranno pensati per il casual gaming, cioè non per le per la piattaforma mobile o per piattaforme tipo Nintendo. In quel senso ma per piattaforme per giocatori un pochettino più hardcore, per quanto si possa essere hardcore gamer oggi. Beh, io ti devo dire la verità, che per quanto Electronic Arts sia il male e quanto per quanto BioWare non è più chiaramente la BioWare che molti videogiocatori come me amavano un tempo, diciamo che un gioco alla Mass Effect con l'ambientazione Star Wars, quindi con le concezioni ruolistiche, pseudo-ruolistiche che insomma oggi ci regala BioWare, insomma non è che mi farebbero proprio schifo, insomma, quindi aspettiamo con impazienza, anche se, come abbiamo detto pure su di ideologia videoludica, tra l'altro gioco visto a Colonia proprio da Giuseppe Saso, c'era quel famoso 13-13 che era in sviluppo, sembrava insomma anche in un discreto stato di sviluppo, che è stato completamente cancellato da Disney, non sappiamo neanche bene la ragione, perché sembrava insomma anche tecnicamente abbastanza interessante, o forse probabilmente lo sembrava più di quanto lo era realmente, insomma. Va bene, detto questo, ecco, volete fare una considerazione su questa cosa Electronic Arts che è un po' il male? Diciamo che visto anche The Old Republic era abbastanza scontato che la licenza Lucas finisse lì, anche perché a livello o lì o Activision, esatto, a livello economico chi poteva comunque dare un senso allo sfruttamento della licenza non è che potesse essere cercato chissà dove, questo sicuramente. Diciamo che sono discretamente preoccupato, ma semplicemente il fatto che ho scoperto ora che sono 6 i seguiti previsti e non 3. Speravo in una trilogia e basta, ma... Uno all'anno, ecco. Poi, De che, scusami? Di film. De film? No! No, cosa? No, ma dove? No. ma dove sta scritto? No, dimmelo. Questo non lo sapevo. Dov'è che l'hai letto? Ho capito male, so che l'hai detto tu. Ho capito altri 6, non 3. No, 3 per adesso sono 3, cioè, e non uno all'anno, ogni 2 o ogni 3 anni. Sono 3 più. No, non so, se io ho letto una cosa che era, cioè, su un articolo si faceva menzione di un articolo di un film all'anno, più ovviamente un'eventuale serie televisiva, quindi insomma. Vabbè, ma comunque esatto. Sti cazzi e andiamo su quel bar su Melee Island. Allora, non vorrei sembrare che sto tagliando in maniera brusca, ma insomma io penso che in questa puntata abbiamo detto più o meno tutto quello che potevamo dire, e quindi ce ne andiamo a leggere la posta dei nostri carissimi ascoltatori, che sembrava non esserci, ma in realtà qualcosina ci sta, perché abbiamo sul sito di Archeologia Videoludica, in merito all'episodio scorso, quello di 3 ore, che Morgan ci fa molto i complimenti per questo episodio, soprattutto per il duetto Pizzi Marrone, perché dice insomma che gli ricorda insomma un fare radio molto notturno, poi sono piaciuti molto i contenuti, mentre che Hot Radio Notturno non ansimavamo, anche se poi Luigi Marrone si è insomma preso la libertà di insultare un bambino, anche se ha ragione, ma poi dopo vi spiegheremo perché, mentre che The Ruler anche lui ha apprezzato molto e fa riferimento a un vecchio amore di podcast, ossia che quel tipo di puntata gli ha ricordato molto un di tutto un podcast vecchio stampo, ed in effetti sì, e c'è anche un motivo per cui hai notato questa cosa, mi piacerebbe anche riuscire a tornare al vecchio amore, ma certo purtroppo devo sistemare un sacco di cose, perché me lo stanno chiedendo in tanti, ma in realtà non c'è molto da chiedere, ci sono molte cose pronte, però purtroppo non si può fare tutto e tutto insieme. E poi se la piglia insomma un po' con chi ha scritto le note dell'episodio, perché sono un po' dei link errati, e si dispiace. Già corretti, sì, chiaramente già corretti, quando oramai la gente non ci torna più, però a me non fa niente, io ti voglio bene uguale. Ma la cosa particolare è che erano giusti, quindi devo capire che è successo. Okay. Allora, The Ruler dice che erano giusti, quindi sei un cialtrone. No, erano giusti quando è uscito, poi quando ho dopo si sono modificati da soli. Vabbè, ma succede, anche questo nei migliori film di Carpenter di solito succede. E, si dispiace del fatto che l'audio di Colombini non era un granché, ma purtroppo, ragazzi, cioè non era un granché neanche per noi che eravamo in sala, perché comunque era una connessione Skype, il volume era molto alto, il microfono era molto vicino alle casse, non è che potevo andare lì a rompere i coglioni mentre che stavano facendo questa cosa. Su oldgamesitalia.net chiaramente sul forum non c'è un commento, ma insomma ormai questa è una cosa che purtroppo e, mentre che sulla pagina Facebook c'è Ivano Spagnoli che insomma dice che, ecco, ritorniamo al discorso di Marrone, dice che è assolutamente insopportabile il bambino del museo, non mi frega nulla, picchiatelo. Alex, spieghiamola, perché magari non tutti lo sanno, non capiscono che voleva sto bambino che tutti odiano. Beh, diciamo che il bambino che riassume in sé, infatti direi che non è in realtà lui, è un attore che tu hai pagato per interpretare il ruolo del bimbo. No, non è così, ma è anche peggio la cosa in realtà. Vabbè, fondamentalmente il bambino che appunto non gli frega un cazzo di quello che è il passato del videogioco, perché sembra che la cosa non lo riguardi e non solo, cioè nel senso può anche dirgli non mi frega niente, ma l'atteggiamento che è venuto fuori, ed è quello che credo che abbia indispettito molti ascoltatori, me incluso, è il fatto che di mancare una sorta di mancanza di rispetto, come dire non solo il passato è passato ma siete passati anche voi. E ho trovato la cosa molto, molto arida, molto sterile. Mi è dispiaciuto per questo bambino, perché magari un giorno cresce e dice ok, riscopriamo, oppure non riscopre, non gliene frega niente. Però il fatto di dire ok, quello che è passato è passato e non c'è più e chi se ne frega, è stato un po' faticoso, mettiamola così. Un po' particolare, anche questo... perché poi era anche incontrobattibile, no? Nel senso che tutto sommato un bambino ti dice quello che è stato, a me non me ne frega niente, perché quello che è stato, quello che oggi c'è, cioè a differenza di quello che è il passato che non c'è più, quindi sti cazzi. In realtà lì per lì non sai neanche cosa replicargli, no? Nel senso che non c'è un qualcosa che tu possa dire a lui. Chiaramente il senso del passato è una cosa che si matura con il passare degli anni, chiaramente crescendo, ma è proprio come dice Luigi, l'arroganza con la certezza, l'assoluto piglio con il quale lui afferma questa cosa, senza un minimo di pudore, perché poi non è che se deve vergognare di quello che dice, però è questa la cosa che magari ha colpito e infastidito un po' tutti, no? Compreso Luigi, che insomma prima ha provato a giustificarlo, poi lo ha criticato e poi lo ha in un'escalation di follia lo ha anche addirittura insultato e poi ha investito la sua macchina e poi dopo è andato fuori e gli ha bucato le gomme della macchina del padre. La cosa paradossale, e lo dico insomma anche scusandomi, è che quel ragazzo è il figlio di un mio amico che era lì, tra l'altro al Vigamus. Io lo stavo intervistando, ho intervistato lui e l'ho messo nella trasmissione, poi Luigi ovviamente ha cominciato a fare questo e in realtà era giusto quello che diceva Luigi, quindi non ho mai, come sapete, non ho mai censurato niente di quello che si fa nei nostri podcast, di quello che si dice, però è chiaro che a posteriori, sapendo che magari questa persona poteva ascoltare il podcast, mi sono sempre sentito a disagio. Non so se lo ha fatto, eventualmente mi scuso, magari nel senso per il fatto che è suo figlio, sebbene comunque il ragionamento penso che il mio amico lo possa comprendere abbastanza bene. Insomma, detto questo, ragazzi, avete qualcosa da aggiungere? Io personalmente no. Ok, Alex? Beh, sono molto contento di essere stato qui, era una bellissima puntata che appunto anche questa, nonostante l'aspetto un po' più storico, è stato comunque un grande marcord. Quasi evangelica, vorrei dire. No, non usiamo termini che potrebbero offendere la gente, tipo me, ad esempio. Una puntata cristologica, dai. Va bene, allora. Ringraziamo Alex che ritornerà dalla prossima puntata non solo a fare il conduttore ma anche di occuparsi della parte tecnica. AlexRaccuglia.net è il sito dove potete andare a vedere tutto quello che fa Alex nella vita, quindi la parte più tecnica, quella insomma che riguarda il suo lavoro di editor e di regista. E mentre No, è bellissimo perché questo sito, che è il mio sito del regista dove metto tutti i miei lavori, non lo conosce nessuno. Mi piace che tu l'abbia tirato fuori. Di sotto tiri fuori videodigaz.wordpress.com. Ma va bene, ah, ok. Dove praticamente videodigaz.wordpress.com è invece il sito dove Alex fa tutte le sue elucubrazioni dal punto di vista tecnico. Su quello che è il video e l'audio, insomma, quindi è il suo podcast poi fondamentalmente, che esce quando può, perché chiaramente Alex c'ha anche veramente una mole di lavoro non indifferente, mentre che allgamesitalia.net è il sito insomma che ci ha fatto conoscere Roberto Bertoni e che produce con noi ovviamente questa puntata, quindi www.oldgamesitalia.net. Ricordiamo archeologiavideoludica.net è invece il nostro sito, mentre che www.italianpodcastnetwork.it è sempre il grande network con il quale stiamo inglobando praticamente tutte queste trasmissioni. Archeologia Videoludica la trovate su G+ e la trovate anche su Facebook, e Videoludica ovviamente su Twitter. archeologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail, sapete insomma dove scriverci, contattarci, commentare, fare quello che volete. Tanto la metà di questi contatti neanche li utilizzate. Ci ascoltiamo alla prossima puntata, che sarà una puntata sul Archeologia Videoludica. Nel profondo dei Caraibi, Milly Island. Salve, mi chiamo Guybrush Threepwood e voglio diventare un pirata. Certo, devi andare al bar scum. Parte 1, le tre prove. Oh, il bar scum! Oh, un cane! Ah, farf, raf, raf, lechak! Ah, zitto. Oh, tre pirati! Salve, vorrei diventare un pirata. Certo, devi rubare l'idolo, battere il maestro di spada e trovare il tesoro. Ok, ciao. Ho una pentola, ho un pezzo di carne e ho un pesce, li porto tutti con me. Mi servono soldi. Un circo! Ciao, siamo gemelli, sparati dal cannone e avrai soldi. Ok, facciamo. Ben fatto, ecco i soldi. Grazie, ora posso comprare una mappa del tesoro. Ho un tesoro. E ora sto per rubare l'idolo. Ciao, sono Elaine, sei carino, puoi tenerti l'idolo. Non parli molto, devo andare, ciao. Non parlo molto, secondo Elaine. Salve, sono lo sceriffo Shimetop, ti butto nell'acqua. Splash, prendo l'idolo ed esco fuori dall'acqua. Sì, sono vivo. Ciao Guybrush, ti amo. Anch'io ti amo. Oh, sai parlare? Sì. Forte. Bene, allora andiamo da te. Prima completa le prove. Ok. Devo duellare la spada di su. Oi, combattimi. Ah, combatti come un contadino. Tu combatti come una mucca. Sì, posso fare tutto. Salve, sono il maestro di spada, nessuno può sconfiggermi. Io sì. Tu combatti come una super mucca. Sono stata sconfitta. Grande, ora sono un pirata. E ora dai Elaine. Dov'è Elaine? LeChuck l'ha rapita. Dannazione, mi serve una nave. Io sono Stan, ti vendo la nave per $1000. Facciamo 500. Ora mi serve una ciurma. Maestro, sei con me? Ok. Ehi, sono Otis, se mi salvi mi unirò alla tua ciurma. Ok, l'hai promesso. Ora sei libero. Beh, ho cambiato idea. Ciao. Idiota. Ciao, sono Mituk, il mio tatuaggio sa parlare. Sorprendente, vuoi unirti alla mia ciurma? Solo se toccherai la bestia. Fammi vedere questo mostro. Oh, è solo un pappagallo. Cosa, sei incredibilmente coraggioso. Ok, mi unisco. Ehi, ragazzi, sono io, Otis, ho cambiato idea, di nuovo. Ok, grande, ora possiamo andare. Parte 2, il viaggio. Non ho idea di come si arriva a Monkey Island. Intanto preparo da mangiare. Uso i seguenti ingredienti: della cannella, delle mentine, una bandiera, del vino, un pollo, della polvere da sparo e dei cereali. Oh! Ah, quella è Monkey Island! Devo lanciarmi su di esso! Parte 3, sotto Monkey Island. Ciao, sono Herman Totoro. Vai via. Ok, faccio una passeggiatina su Monkey Island. Oh, una catapulta. Oh, ho colpito un albero. Ah, oro, delle banane. Gliene do una alla scimmia. Non vuole seguirmi. Mi servono altre banane. Oh, dei remi senza barca. Oh, una barca senza remi. Ora posso raggiungere l'altra parte di Monkey Island. Oh, dei cannibali. Ciao, vogliamo mangiarti. Dietro di voi una scimmia a tre teste. Cosa? Ehi, non c'era nessuna scimmia. Sarai il nostro prigioniero. Dannazione. La parete è allentata. Posso scappare e portare con me le banane. Ehi, scimmia, altre banane. Mi sta seguendo. Oh, è la testa di scimmia. Scimmia, tira la leva e rimane appesa per sempre. Grazie. Oh, una statuetta. La darò ai cannibali. Ehi, come hai fatto a scappare? Dietro di te una scimmia a tre teste. No, non di nuovo. Ah, come non detto. Ecco una statuetta per voi. Oh, grazie. Ecco la chiave della testa di scimmia. Grazie. Oh, ho aperto la testa di scimmia. Questo posto sembra orribile. È un labirinto. Mi sono perso. Mi serve altro aiuto dai cannibali. Ecco, la testa del navigatore. Gli piace. Oh, grazie. Ok, navigatore, mostrami la via. Nostro sinistro, dietro, avanti. Oh, è la nave fantasma. Diamo un'occhiata. Ehi, umano, vai via. Mi serve la collana dell'invisibilità dal navigatore. Navigatore, dammi la collana. No, per favore, no, per favore, no, per favore, no, per favore, no, per favore, no, per favore. Okay. Grazie. Sono invisibile. Ah, la stanza di LeChuck. Oh, c'è una chiave a pochi passi. Facciamo una passeggiata. Ho sentito qualcosa come dei passi. Cavolo, ho fatto troppo rumore. Usa il magnete. Sì, ho preso la chiave. Qui c'è qualche strumento. E qui c'è il baule. Lo apro con gli strumenti. Ah, c'era una radice. La darò ai cannibali. Grazie. Ecco, birra di radice. Uccide fantasmi. Sì, la nave è scomparsa. Ma c'è un fantasma. Ti prego, risparmiami, ti dirò tutto. D'accordo, dov'è la nave fantasma? Dov'è Elaine? Sono andati su me. Lele Island, dove le Chuck vuole sposarla. Dovrò tornare indietro. Posso venire? No, ti ammazzo. Guybrush, mm. Sto veri. Vogliamo tornare a casa. Voglio andarmene da qui. State ciurma, ora possiamo far ritorno su Mini Island. Grande. Parte 4, Guybrush si scatena. Ora posso eliminare tutti i fantasmi. Quella è la chiesa, il matrimonio si sta svolgendo. Fermate il matrimonio. Ma che cavolo stai facendo? Mi sto sposando. Sto salvando Elaine. Oh, ciao Elaine. Ciao Guybrush. Ehi, aspetta, ma se tu sei qui, chi è lì? Due scimmie. Furba. Mi hanno rubato la birra, devo andare adesso. Ciao Guybrush. Guybrush, sono molto arrabbiato con te, ora ti picchio. Aspetta, perché non... divertente. Hai un distributore di birra di radice. Prendi questo, le Chuck. No, oh, sono morto. Sì, ho vinto. Ciao Guybrush. Ciao Elaine. Ti amo. Anch'io ti amo. Oh, i fuochi. Ah, che bello. Bene, allora, ciao. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aya. Acquista un prodotto Aya con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su ayafood.com. Buone feste da Aya.